A tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, il Cagliari che sta facendo di tutto per aggiungere ancor più senso, ancor più sapore, ancor più pathos al derby di questa sera, perché è 1-1 tra Juventus e Cagliari a Torino. Ce la sta mettendo il Cagliari, ma ce la sta mettendo anche il Genoa, che ora è espulso Marco Rossi per la cronaca in questo istante, quindi in inferiorità numerica, ma in vantaggio 3-1 sull'Udinese, che peraltro aveva segnato per prima con Ferronetti. Ma vado con ordine sui parziali. Poi intanto saluto Dario Ricci, che oggi è il nostro inviato al telefono e ci aiuta a tenere conto della cronaca in quest'ultimo quarto d'ora più recupero. Ciao Dario. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Dunque vado io coi parziali, con il Cesena che sta battendo 3-0 il Novara, con il Chievo in vantaggio 1-0 col Palermo, il Lecce che sta vincendo 1-0 a Firenze con la Fiorentina, dicevo 1-1 tra Juventus e Cagliari, Parma 2 Siena 0, e c'è Genoa Udinese con l'espulsione di Marco Rossi, che ho detto, ma anche un rigore che può riaprire la partita, vero Dario? Sì, è proprio Totò Di Natale sul pallone, è stato lo stesso Di Natale a subire il fallo di Marco Rossi, azione quanto mai contestata, perché da replay sembra che Rossi intervenga prima sul pallone e poi solo dopo su Di Natale per dovere il rigore. Parte Di Natale, il tiro ed è il gol Frei battuto, e partita che si riapre alla mezz'ora del secondo tempo, Genoa 3 Udinese 2. Genoa, che lo ricordiamo, si era riportato proprio pochi minuti fa al 26esimo del secondo tempo sul 3-1 grazie alla rete di Palacio. Ora Genoa in 10 e Udinese che ha, come vi abbiamo raccontato in diretta, accorciato le distanze e riaperto la partita, Carlo. Sì, riaperto la partita con l'Udinese, che secondo me sta già subendo un po', sentendo un po' il mal d'Africa, priva di, per i prossimi 40 giorni, causa Coppa d'Africa, di due giocatori fondamentali come Benatia e Asamoah, battuta in settimana dal Chievo in Coppa Italia. Oggi aveva iniziato bene con il gol di Ferronetti di testa dopo 13 minuti. Nella ripresa però moltissimo Genoa, con Granqvist al quinto in tapin su respinta di Handanovic, un minuto dopo grandissimo gol di Jankovic destro al volo su cross di Constant, poi Palacio come ha detto Dario Ricci, e ora Di Natale che prova a riaprire i giochi. Ma volevo anche parlarvi della Juventus, che sta, come detto, pareggiando 1-1 in casa con il Cagliari, con Milan e Inter in questo momento spettatrici interessate dal loro balcone con vista a San Siro, dove si giocherà il derby alle 20:45. Juventus che pure aveva segnato dopo soltanto 5 minuti con un'azione magnifica, 5-6 passaggi tutti di prima fino al gol di Vucinic a porta vuota liberato da Lichtsteiner, però azione meravigliosa. Contestazioni cagliaritane fondate, peraltro, con Guida, arbitro di questa gara, che non ha visto un paio di tocchi di mano in area, uno di Bonucci e l'altro di Pirlo nel primo tempo. Al secondo della ripresa il gol di Kossu, molto bello, dal limite dell'area su corta respinta di Bonucci, che anche oggi non sta giocando una gran partita. Dopo 20 minuti è entrato anche Del Piero, di cui per ora non si hanno comunque grandi notizie. Andando sugli altri tabellini, mentre vi ricordo il numero verde, oggi vi aspetti molti a chiacchierare su questa giornata di cui stiamo vedendo i risultati. Il primo, quello di ieri sera, ancora non è ufficiale perché il diluvio ha impedito la conclusione di Catania-Roma, si è giocato solo 65 minuti e partita che dunque verrà ripresa da lì, data ancora da definire mi pare. Comunque una giornata che ci porta verso un derby che, comunque lo guardi, comunque lo giri, dà l'aria di essere determinante, perché a maggior ragione se la Juventus dovesse alla fine pareggiare in casa con il Cagliari, perché se il Milan vince può trovarsi da solo, ovviamente Cagliari e Juventus permettendo, può trovarsi da solo in testa alla classifica, può ammazzare le speranze dell'Inter, che scivolerebbe a meno 11 dai rossoneri, e insomma può fare un grandissimo passo in avanti verso il titolo. Inter che invece, d'altra parte, vincendo la partita di stasera, potrebbe rilanciarsi quasi integralmente in maniera assolutamente impronosticabile. Ricordiamo che i nerazzurri arrivano da 5 vittorie consecutive. Vediamo questo corner di Del Piero, battuto da sinistra, la difesa del Cagliari respinge e il Cagliari riparte. Che il Cagliari fosse in splendida condizione l'avevamo capito già domenica scorsa, quando aveva giocato una partita piena di sostanza, oltre che conclusa con i tre punti. Oggi ricordo anche la vittoria importante in prospettiva, Champions League in prospettiva, primi posti, anche in prospettiva derby, vittoria importante della Lazio sull'Atalanta 2-0. Lazio che ha 33 punti, ne ha 4 in più dell'Inter, però dicevo, l'Inter vincendo la partita di stasera potrebbe davvero ributtarsi in questa mischia, complice, ripeto, la momentanea sconfitta dell'Udinese e il momentaneo pareggio della Juventus. Quanto alle altre partite, dicevo, del Cesena che sta un po' passeggiando sulle rovine del Novara, che è la squadra più in difficoltà in questo spicchio di campionato, con Mutu grande protagonista, tra l'altro oggi traguardo importante tagliato da Adrian Mutu, quello dei 100 gol in Serie A, traguardo tagliato dopo 20 minuti con un gol facile in tappina su respinta di Wicani, portiere novarese, che peraltro oggi ha parato un rigore non a Mutu, che il suo lo ha segnato dopo 37 minuti, fallo di Morganella su Candreva e appunto rigore trasformato da Mutu per il 2-0. Poi è stato l'autorete di Rinaudo dopo 45 minuti di gioco. Rinaudo che debutta in maglia Novara e il debutto non è incoraggiante perché ha siglato questa autorete e ha anche provocato un chiaro rigore a 17esima della ripresa, come detto, sbagliato da Candreva. C'è però un gol che vi racconterà Dario Ricci. Sì Carlo, è la rete del Siena a Parma, partita che si riapre col Siena che accorcia le distanze al 34esimo e quindi si porta sul 2-1 lo score totale per gli emiliani. L'autore della rete è Grossi, splendido diagonale di sinistro dai 25 metri a battere sul secondo palo rasoterra Pavarini e partita quindi riaperta anche in questo caso. Con Donadoni che debutta sulla panchina del Parma, Parma che, visto che stiamo parlando di questa gara, aveva segnato dopo 24 minuti con Morrone Biaviani, gol in condominio, non si è capito bene chi fosse l'ultimo tocco, comunque a due passi, anzi meno, a un passo dalla porta su respinta di Pegolo. Il gol del 2-0 è arrivato al 21esimo della ripresa con Valiani, che non è un gigante ma ha colpito perfettamente di testa un cross di Giovinco dalla sinistra, e ora il Siena che prova a riaprire tutto. La Fiorentina proprio non riesce a trovare continuità di risultati, almeno stando al parziale della partita di oggi del Franchi. Sta vincendo il Lecce 1-0, il fallo di Natali su Muriel Calvarese vede un rigore non di quelli proprio trascendentali, chiaro che Muriel non fa tantissimo per stare in piedi sul contatto con Natali, però rigore che ci può stare, che Di Michele comunque trasforma. Il Palermo evidentemente non sta così traendo grandi vantaggi dalla cura Mutti, una partita molto grigia del Palermo oggi a Verona con il Chievo. La rete fin qui decisiva è di San Marco, segnata dopo 5 minuti della ripresa. È stato un taglio di Luciano, un cross dalla destra per pescare San Marco solissimo dalla parte opposta del campo nell'area di rigore. San Marco ha avuto un quarto d'ora di tempo per aggiustarsi il pallone e per segnare. Ecco Boriello, Dario Ricci. Sì, eccolo Carlo, ha detto proprio bene, 36esimo del secondo tempo, esce Vucinic, l'autore di quello che era stato il momentaneo vantaggio bianconero, entra e fa il suo esordio in maglia juventina Marco Borriello. Da notare Carlo che in precedenza, questo è l'ultimo cambio effettuato da Conte, perché in precedenza, dopo l'ingresso di Del Piero per Pepe, era entrato e si era rivisto anche Krasic al posto di Matri. Quindi, addirittura insomma, Krasic. Addirittura Krasic, vuol dire che proprio Conte non sa più chi andare tutto a pescare, Da sottolineare intanto anche a Genoa un miracolo di Fresu, un splendido tiro dall'altezza del dischetto di rigore di Pinzi, bravo a rubare palla al limite dell'area a Merkel, la conclusione di destro al volo, bravissimo Frea, mano aperta con la mano sinistra a respingere un gol che una palla che già sembrava in fondo al sacco, Carlo. Sì, io vi do per completezza informazione anche gli autori tabellino della gara che si è giocata alle 12.30, e cioè Lazio batte Atalanta 2-0 con i gol di Hernanes su rigore dopo 20 minuti del primo tempo e la rete conclusiva al primo minuto di recupero di Klose, per questo 2-0. Poi sentiamo anche cosa ha detto Eddie Raia, ma intanto restiamo in cronaca perché c'è la Juventus che sta provando in tutte le maniere a rendere meno avvincente il derby di questa sera, derby che sul quale invece Cagliari sta provando a versare altro sale. Ma chi vince secondo voi? Che partita sarà? Ve lo chiedo subito, tanto abbiamo tempo fino alle 19 per parlare insieme di questa gara. 800-24-0024. Non ditemi che vince Tevez, che comunque vada potrebbe arrivare a Milano da una parte o dall'altra guadagnando un sacco di soldi. Anche questa vicenda è un derby che si è giocato tutta la settimana e per il quale, come spesso accade, il pallone è rimasto sullo sfondo e rimarrà sullo sfondo fino a stasera alle 20.45, perché si è parlato di tutt'altro, dal papero genero Pato che viene stoppato dal quasi suocero e dice tu a Parigi non ci vai e quindi rimani al Milan, Allegri che fa finta di essere contento quando contento non lo è. Io fossi un tifoso del Milan sarei contento così, perché non mi pare un gran guadagno l'eventuale cambio tra Tevez e Pato. Mi tengo Pato tutta la vita, che ha 22 anni, è un giocatore di un talento inesplorato pazzesco, però Allegri non lo vede bene. Adesso c'è anche questa sottile guerriglia, no? Tra Allegri, che la cui coppia preferita in attacco è quella tra Ibrahimovic e Robinho, che con ogni probabilità rivedremo stasera a San Siro, e una proprietà che spinge per Pato, e soltanto che Allegri, insomma, bisogna vedere come si comporterà, no? A chi diamo ragione? Mi comporto con la solita indipendenza, ho firmato il contratto fino al 2014 e va bene, però tra un contratto firmato e la permanenza passano dei risultati da ottenere, permanenza sulla panchina del Milan passano dei risultati da ottenere, e bisogna vedere come Allegri li otterrà, se con la sua testardaggine, la sua indipendenza, che non dimentichiamolo fece fuori anche un altro giocatore estremamente gradito alla proprietà come Ronaldinho, oppure se Allegri questa volta dirà vabbè, c'è Pato, facciamolo giocare. Credo che su questo filo sottile si giocheranno le prossime settimane. Valerio Bernardi, cosa ridi? Dunque, per tutti i romanisti, Valerio Bernardi compresa, romanisti e tifosi del Catania, ricordo sempre per la cronaca che i restanti 25 minuti di Catania-Roma si giocheranno l'8 o il 15 febbraio, e questo dipenderà dalla qualificazione o meno della Roma alla semifinale di Coppa Italia. Così mi segnala dalla redazione Giorgio Di Luca, io vi do completo la notizia e l'informazione. Ci fermiamo, non c'è nessun gol da segnalare. Naturalmente interromperemo e daremo la palla a Dario Ricci in caso di variazione dei risultati. Vedo già in linea Giacomo Bagnasco per fare due chiacchiere di rugby, con una sconfitta imbarazzante arrivata ieri per il rugby italiano, non so se lo sapete, quella degli Aironi Viadana sul campo interno di Monza. Traffico, a dopo. Strade in diretta. Per un incidente code di 2 chilometri sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze tra Ponte de Raes e Montopoli-Valdarno. Un incidente anche sulla 7 Milano-Genova, si incontra coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione del capoluogo Ligure. Code anche sulla 9 Lenate-Como-Chiasso in direzione della Svizzera, ma in questo caso per operazioni doganali tra Como Nord e Chiasso. Prudenza poi per nebbia in banchi, la visibilità è ridotta tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Ed è tutto, prudenza alla guida e a più tardi. A tempo di sport. No, stavo sempre ragionando sul derby che verrà. Vuoi vedere che poi magari lo vince l'Inter, che si porta a meno 5, e Moratti dice tanto vale provarci, mette la mano in tasca e tira fuori il libretto degli assegni, e domani arriva anche Tevez. Immaginatevi come sarebbe lunedì degli interisti. Se avete qualcosa da dire già da adesso, 800 24 00 24, oppure scrivete 349 238 6666. Dario Ricci, è successo qualcosa? Sostanzialmente no, Carlo, però ti segnalo una bella conclusione di Jovetic, un destro dal limite rasoterra a Firenze, bella altrettanto bella la respinta del portiere del Lecce Benassi, e da sottolineare anche che Firenze, campo dove si gioca, con un ritardo di circa 5 minuti rispetto a tutti gli altri campi, siamo intorno al 42esimo su tutti i campi tranne proprio a Firenze, dove si gioca siamo intorno al 37esimo 38esimo, quindi partita che inevitabilmente finirà qualche minuto dopo. Sì, magari c'era qualche giocatore che doveva completare la messa in piega. Attenzione, c'è il Novara che segna un gollonzo. Segna un gollonzo? Sì, segna un gollonzo. Sembra proprio di sì, perché non chiedetemi di raccontare questa, c'è il pallone di Caracciolo che praticamente ballonzola sulla linea, riesce a respingere Antonioli, un'altra conclusione che rimbalza sul petto di Morimoto, sembra a no, tutti petto gol, in faccia, l'ha preso in faccia. Sulla faccia, sì, sembra a tutti i gol, tranne che all'arbitro, che però non l'ha segnato l'arbitro Valeri, perché il pallone ma che sembrava ben al di là della riga, ma non a Valeri. Neanche questo gol non subì, sarebbe stato, credo, il gol più comico della Serie A fin qui, penultima di andata. Giacomo Bagnasco, buonasera, ciao Giacomo. Eccoci qua, di comico abbiamo poco noi da raccontare. Ma no, sì, indubbiamente. Volendola guardare, comico anche il risultato di ieri a Monza. Sì, c'è tragicomico, magari. Giocavano in casa contro il Clermont, sicuramente una squadra molto forte, motivatissima, pieno organico, grandi campioni, però una sconfitta per 82-0 non sta né in cielo né in terra e induce ad amare riflessioni. È la sì. peggiore sconfitta mai subita da una squadra italiana in Heineken Cup, dove pure le nostre purtroppo non hanno mai brillato. D'altronde la giornata è stata così, sconfitte pesanti un po' dappertutto, anche in Challenge Cup, nonostante una buona prova del Rovigo in casa con i londinesi dello Wasps. Lo stesso Benetton ha perso 44-17 in Galles a Swansea contro gli Ospreys, ed è per il Benetton la peggiore sconfitta stagionale. Va molto male e il torneo delle Sei Nazioni non è così lontano, comincia esatto, il 4 di esatto. febbraio. Succede un po' quello che era successo già l'anno scorso con le squadre italiane, parliamo delle due squadre principali, quelle che partecipano al Pro 12 ex Celtic League e quindi fronteggiano le migliori selezioni irlandesi, scozzesi, gallesi, che sono partite abbastanza bene, ma proprio in prossimità del Sei Nazioni hanno mostrato la corda. C'è chi parla di affaticamento, c'è chi parla di difficoltà a tenere il ritmo, ma insomma sono squadre formate da professionisti e dovrebbero essere affaticati anche gli altri. Esatto. Così non è. Se vogliamo. Un peccato, perché proprio in coda ad una settimana in cui c'erano state anche insomma notizie positive, come quella del Flaminio, insomma, c'è una buona aria, no? C'è una buona aria intorno al rugby azzurro, arrivano queste sconfitte che sono mazzate pesantissime, non servivano. Abbiamo 52.000 spettatori già pronti col biglietto in mano per Italia-Inghilterra che si gioca fra circa un mese. C'è grande aspettativa, c'è uno sport che sembra sul punto di decollare. Ci sono sponsor presenti e anche futuri, diciamo, che ci credono, se è vero, come sembra sia vero, che il prossimo sponsor tecnico della nazionale da giugno sarà l'Adidas e così via. Però qui sì, non per essere pessimisti prima che il torneo cominci, ma sicuramente stesso Brunel ieri si è detto, il nuovo CT della nazionale, giustamente preoccupato. Brunel, che poi speriamo possiamo dirlo, no Carlo? Speriamo di avere il nostro ospite prossimamente. Speriamo di avere il nostro ospite e speriamo di non trovarci a commentare sconfitte imbarazzanti come questa. Indubbiamente. Insomma. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Dario Ricci, che succede? 5 minuti di recupero a Torino, che insomma di fatto è il campo principale della domenica pomeriggio. Krasic prova a far di sponda per Borriello, respinge la difesa cagliaritana. Sull'altro campo caldo di giornata, cioè Genova, da sottolineare al 44esimo una splendido diagonale di intanto la Juventus in avanti, ma chiude ancora la difesa cagliaritana, che anzi può ripartire in contropiede col velocissimo Ibarbo, e De Ceglie invece recupera il pallone, può allora a questo punto riproporsi la Juventus. Dicevamo, splendido diagonale di Natale, altrettanto splendida la risposta di Frey, vero sì. protagonista oggi a Genova. Saremo a vedere come andrà a finire, ma dovesse finire così sicuramente palma del migliore in campo per il portiere. Beh, Frey non c'è dubbio. Dario, tu stai lì, io faccio due chiacchiere con Flavio Vanetti, prestigioso inviato del Corriere della Sera sulle piste da sci. Ciao Flavio. Ciao. Oggi giorno dello slalom maschile a Wengen, il solito Kostelic, sesto De Ville, e non è male. A Cortina è andata un po' meno bene invece nel Super G femminile, con la Merighetti reginissima ieri, soltanto 19esima, e torna a vincere l'Insa Yvonne. Però è stato un weekend interessantissimo per il nostro sci, Flavio. Tra gare che ci sono, Pittin che oggi ha fatto il tris, gare di fondo che si disputano a Milano, ieri la Merighetti che addirittura vince la discesa libera, fuochi d'artificio sul Circo Bianco. Sì, sicuramente diciamo che il finale, almeno sul fronte del Fiorentino è stato un po' meno lieto di quello che ci si potesse immaginare, mi riferisco soprattutto a Wengen, allo slalom, dove forse avevamo le maggiori speranze. Secondo me era un po' difficile che le ragazze velociste potessero ripetersi. Però ecco, Wengen, ahimè, una volta di più è stata una pista, non dico traditrice, però non in grado di assecondare al meglio i nostri. In particolare De Ville si è ritrovato in una situazione simile a quella di domenica scorsa da Del Boden, quando era primo ma con margini veramente risicati. Anche oggi era secondo, con però uno scarto di 3 centesimi su Kostelic e appena 2 da Matt, che in quel momento era in testa. Purtroppo ecco, credo che Christian, che è sicuramente lo sciatore, lo slalomista più continuo nostro in questa stagione, non ha, secondo me in questo momento, forse dovrà aggiungerlo come passo in avanti, quel quid che gli permette di essere proprio anche un risolutore, un finalizzatore. Cioè in queste due situazioni si è visto che lui forse è un buon piazzato e non un vincente. Speriamo che la prossima occasione, domenica, Kitz ce lo restituisca in una maniera diversa. Quanto al successo di ieri della Merighetti, non mi dire che te l'aspettavi, perché non se lo poteva attendere nessuno in una libera. Ma io ti dico sinceramente, con tutto rispetto per Dada, che è un'atleta che forse è stata anche più sfortunata di quello che in realtà meritasse, quella di ieri è stata un'impresa comunque veramente impronosticabile, perché stare davanti a una Fonda o anche una Offrisch che si è dimostrata molto competitiva a sua volta, sinceramente era quasi impensabile, visto soprattutto il fatto che Dada nel passato non è mai riuscita ad arrivare così vicino a queste grandi colleghe che dominano la Coppa del Mondo. Però ci sono i momenti gloria per tutti. Lei è stata brava, ieri è stato veramente bene, ha interpretato la pista nel migliore dei modi, ha avuto sicuramente questi sci nuovi che ha provato proprio in questa occasione e l'hanno assecondata. Diciamo che è stato un una tanto, un veramente esaltante. Adesso l'augurio è che non si fermi qui, che comunque ci provi. Lei è sicuramente una testarda, una tenace, dice molto umilmente di non avere quel talento che hanno altri, però questo non significa che non possa ritentare. Grazie Flavio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Flavio Vanetti. Io di corsa torno da Dario Ricci, perché abbiamo ancora un minuto. È finita la partita di Genova con l'Udinese, che ha perso 3-2. Si gioca ancora a Torino? No, è finita in questo istante. Finisce 1-1 con parecchi rimpianti per la Juventus negli ultimissimi secondi. Un'ottima occasione sprecata da Krasic su assist di Borriello, un sinistro al lato da praticamente l'altezza del dischetto, e poi al 49esimo cross di De Ceglie, Vidal di testa dall'altezza dell'area piccola fuori incredibilmente. Da segnalare al 44esimo a Parma il 3-1 per gli emiliani firmato da Giovinco, e quindi di fatto partita che si è conclusa sul 3-1. E a Firenze, dove mancano ancora 4 minuti alla fine, ora l'infortunio a Natali in uno scontro di gioco all'altezza del centrocampo. Natali che è uscito ora in barella, sembrava comunque cosciente, quindi attendiamo notizie confortanti dagli spogliatoi. Carlo. Mentre si gioca ancora soltanto a Firenze, con il Lecce in vantaggio 1-0, 4 minuti di recupero, ne mancano 2 e mezzo. Io ringrazio Dario Ricci, che ritroveremo più tardi. Quanto agli altri finali, da segnalare sempre per la cronaca che il gollonzo di qui sopra, quello comico di Morimoto, alla fine è stato assegnato, perché Valeri si è messo una mano sul cuore. È finita comunque 3-1 per il Cesena. Il Chievo ha battuto 1-0 il Palermo, e per il Palermo di Muti c'è un punto nelle ultime in 3 partite, mi sembra pochissima roba. Juventus-Cagliari 1-1, e sai che derby questa sera. Parma batte Siena 3-1 e Genoa batte Udinese 3-2. Cosa c'è? Ci fermiamo? Sì, ma torniamo dopo. Beh, si può dire che alla Juventus, alla signora, il rossoblu sta malissimo, perché declinato nelle sue varie gradazioni, perché fin qui ogni volta in cui ha incontrato una squadra con questi colori addosso non ha mai vinto, col Bologna, con il Catania, con il Genoa e oggi con il Cagliari, aggiungendo un sacco di benzina sul derby di questa sera, perché questo 1-1 permetterebbe, lo ripeto, al Milan di andare da solo al comando in caso di vittoria, all'Inter di rilanciarsi in maniera molto seria, di dare sostanza alla rimonta realizzata fin qui con le 5 vittorie nelle ultime 5 partite, 7 delle ultime 8. Insomma, questa sera l'Inter a Crocevia, ma d'altra parte ieri Ranieri è stato molto onesto nell'ammetterlo, è la partita che ci può rilanciare, oppure, come ha sottolineato anche Allegri, quella che può affossare definitivamente e vanificare e bruciare tutte le ambizioni dell'Inter in caso di sconfitta. Resta questo 1-1 che è la notizia di giornata. 1-1 tra Juventus e Cagliari, gol meraviglioso per la costruzione di Vucinic dopo 7 minuti di gioco, proteste cagliaritane, lo ricordo, per un paio di tocchi in area di mano, uno di Bonucci e l'altro di Pirlo. Nella ripresa al secondo minuto, Cossu su corta respinta di Bonucci segna il gol dell'1-1. C'è il rabbioso assalto finale della Juventus che però non porta a nulla e così si conclude in pareggio questa, con un pareggio questa partita. Poi c'è anche l'Udinese che ho l'impressione comincia a soffrire il mal d'Africa, partiti Benatia e Asamoah, due giocatori fondamentali per la Coppa d'Africa, è arrivata la sconfitta in settimana in Coppa Italia che poteva essere al massimo un campanello d'allarme, ben più seria è quella la battuta d'arresto di oggi a Genova sul campo di un Genoa che doveva chiaramente ritrovarsi dopo il cambio allenatore, dopo gli ultimi pessimi risultati, e oggi ha vinto 3-2 questa gara fondamentale pur essendo passato in svantaggio per i gol di Ferronetti di testa dopo 13 minuti. Nella ripresa un doppio colpo tra il quinto e il sesto minuto di Granqvist su respinta di Handanovic e al sesto di Jankovic, magnifico destro al volo su un cross da sinistra di Constant. Palacio segna al 26esimo il 3-1, poi c'è il rigore, fallo di Rossi su Di Natale, espulsione del capitano rossoblu, Di Natale che trasforma ma l'Udinese che non riesce ad agguantare il pareggio nel finale. Il Cesena, come detto, danza sulle macerie del Novara, nel segno di Mutu che oggi taglia il traguardo dei 100 gol in Serie A, lo fa dopo 20 minuti, con un gol facile respinta di Wicani su una magnifica girata di Eder e da due passi Mutu segna in tappin il gol del 1-0, raddoppia lo stesso Mutu al 37esimo su rigore, poi c'è l'autorete di Rinaudo in chiusura di primo tempo. Un rigore sbagliato dal Cesena per un fallaccio di Rinaldo sullo stesso Mutu, tira in questo caso Candreva e Wicani, portiere mascherato del Novara che oggi è stato il migliore tra i piemontesi, che riesce a parare il tiro di Candreva e al 44esimo il gollonzo di Morimoto in mischia, ma che vale soltanto per la bandiera di un Novara che ha bisogno urgentemente, tremendamente di rinforzi nella corsa a salvezza, una corsa a salvezza nella quale si rilancia il Lecce che vince 1-0 a Firenze. Il fallo di Natali su Muriel al 20esimo della ripresa per Calvarese è da rigore, Di Michele trasforma e Serse Cosmi si porta a casa questi 3 punti, credo inattesi. Continua ad andare malissimo il Palermo che perde anche a Verona con il Chievo, dopo 5 minuti della ripresa segna San Marco su un cross di Luciano che taglia fuori l'intera difesa rossoblu. Per Mutti un solo punto nelle 3 partite alla guida del Palermo, e Palermo che in trasferta continua ad incassare soltanto sconfitte, a non segnare mai. Il Parma, il primo Parma di Donadoni, vince 3-1 con il Siena, gol di Morrone o di Biabiani, ancora non l'ho capito adesso, sono arrivati entrambi su un pallone respinto corto da Pegolo che difendeva la porta del Siena. Comunque il senso importante è il gol del vantaggio degli emiliani che viene raddoppiato al 21esimo della ripresa da Valiani con colpo di testa su cross di Giovinco. Grossi prova a riaprire la gara al 34esimo con una diagonale di sinistro, ma Giovinco la chiude definitivamente al terzo minuto di recupero. Io vorrei sentire, prima dei nostri ascoltatori, che avranno tanto spazio oggi, come sempre, più di sempre, 800 24 00 24, Ballardini, che si è portato via un punto da Torino con il suo Cagliari. Ipotizzato questa cosa, cioè di subire un gol subito e di non perdere le misure immediatamente? No, di subirlo no. Sento molta confusione, no, di subirlo no, però l'idea nostra era quella lì, quella di prenderli subito, quindi di non farli giocare, e poi una volta in possesso di palla di gestire la palla bene, di verticalizzare il gioco il più possibile. Si è preoccupato un po' quando nel finale con l'ingresso in campo di Reaudo e il suo cambio di modulo inevitabilmente la squadra si è dovuta abbassare anche per una stanchezza, immaginiamo, fisica? Sì, ecco, lì dopo l'errore è stato proprio quello di non giocare, perché noi abbiamo coperto bene il campo, ma gli ultimi 15 minuti potevamo uscire molto meglio e quindi magari mettere ancora in difficoltà la Juventus. Ecco, quindi se c'è un appunto da fare, ma davvero bisogna dire bravi a tutti i giocatori, è quello che, insomma, quando si conquistava la palla negli ultimi 15 minuti non si cercava di ripartire, ma un po' per stanchezza non si è cercato di ripartire come sappiamo fare. Ilaria, comunque che il Cagliari fosse in versione stralusso l'avevamo capito anche domenica scorsa con le tre pere rifilate al Genoa, un momento in cui la squadra di Ballardini sta molto bene, e oggi a Torino sinceramente nulla ha rubato, pareggio meritatissimo quello dei sardi. Maurizio da Bari, poi Luca da Torino, primi due ascoltatori di oggi, c'è anche il numero per i messaggi 349-238-6666, c'è chi scrive, chi domanda, Vittorio da Milano, le rispondiamo, c'è nebbia dentro San Siro non lo so perché io sono in questo studio, però sono a poca distanza dallo stadio, guardo fuori dalla finestra in tempo reale, nebbia non ce n'è al momento. Poi c'è chi scrive forza Inter per un campionato aperto fino alla fine, soprattutto forza Udinese che questo è l'anno buono. Beh, anno buono per che cosa? Per lo scudetto secondo me no, perché l'Udinese secondo me non ha le potenzialità per vincere, nemmeno i numeri per vincere lo scudetto. È anno buono ormai da molte stagioni invece per l'Udinese, che gioca nel rapporto qualità-prezzo certamente il miglior calcio della nostra Serie A. Per quanto riguarda i contatti, ci sono anche le nostre pagine Facebook e Twitter di A Tempo di Sport, naturalmente, che sono operative sempre. Maurizio, buonasera. Sì, salve signor Giunta, vorrei cortesemente dire due veloci cose su Milan che escono dall'attualità di giornata. Sì. La prima è che, riferendomi anche alla notizia che vuole Paolo Maldini in tribuna a Castellardo, vorrei dire che in virtù dell'arcinota autarchia di Galliani, sì, è comunque il più grande dirigente di tutti i tempi, di tutto il sistema solare, il Milan sta un po' distruggendo every time, ogni epoca, secondo lei. Il Milan sta un po' distruggendo il suo know-how, perché in che senso? Abbiamo cresciuto Leonardo, dopo 13 anni è andato via, abbiamo cresciuto Ancelotti, va via Pedersoli, è andato a Novara, ma tutti non si possono tenere, Maurizio. Si possono tenere tutti, in particolare Leonardo, insomma, è un po' ballerino, no? Come lei ben sa. Bisogna anche pensare al futuro, perché Galliani non può essere eterno, gli auguriamo le migliori fortune, ma stiamo arricchendo anche le altre società. Sì. In particolare la presenza di Maldini a Parigi è preoccupante. Preoccupante, Maldini era a casa sua, se il Paris Saint Germain gli offre un lavoro da dirigente, cosa che appare possibile o probabile, Maldini farà benissimo ad andarci. È chiaro che Maldini dovrà farsi esperienza come dirigente, perché attualmente è solo un ex campionissimo. Poi? Uh-huh. Anche se lo vede bene con Platini. Comunque. No, la seconda cosa è veloce, una domanda. No, gliela faccio io una domanda rapida e lei mi dà una risposta secca. Lei scambierebbe Pato con Tevez? Io vorrei giocare Emanuelson nel suo ruolo e non trequartista. No, ma al di là di Emanuelson, lei scambierebbe, cioè preferisce Pato o Tevez? Pato con la testa di Tevez. Patto con la testa di... No, io mi tengo Patto con la testa di Patto, se mi permette, la testa di Tevez la lasciamo a Tevez, a chi deve gestirla, che è una testa ricamata non da poco. Maurizio, la ringrazio molto. Traffico, poi Luca da Torino. Formula PEC TNT Post. Un anno gratis, il secondo a 6 euro. Clicca tntpost.it. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, sulla 7 Milano-Genova si avvertono le ripercussioni di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Si segnala un incidente anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cavenago e Trezzo in direzione Brescia. Per traffico intenso sulla 5 Torino-Aosta, rallentamenti per chi è diretto a Torino tra Quincinetto ed Ivrea. A Roma traffico intenso sul tratto urbano della 24, rallentamenti tra il raccordo anulare via Togliatti in direzione della tangenziale est. Prudenza poi per la nebbia in banchi, che riduce la visibilità tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Nelle prossime ore, con lo scendere delle temperature, è possibile anche che si formino tratti ghiacciati. Ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. A Tempo di Sport. A Luca da Torino, che è in linea, propongo di ascoltare insieme Guidolin, che sta parlando con Sky. Abbiamo, come dire... dire che abbiamo avuto 3 minuti di blackout all'inizio del secondo tempo, ma per quello fatto nel primo dalla mia squadra, che è stato uno dei più bei primi tempi giocati fuori casa dall'Udinese in questo anno e mezzo, quindi provate un po' a pensare quanti risultati ha fatto la squadra e cosa ha fatto fuori casa l'Udinese anche prima di questa. E il secondo tempo è stato molto, molto equilibrato, non sento più nessuno, però forse voi mi sentite, quindi mi dispiace aver perso, perché la squadra è con un pizzico di più di malizia, di attenzione, ecco, in occasione del primo gol per esempio del Genoa poteva approfittare di una situazione non facile per il Genoa stesso, che invece da lì poi ha preso entusiasmo. Poi lo rivedremo bene. La seconda sconfitta consecutiva, sì, non era mai Francesco. Successo questo, però sono due sconfitte completamente diverse, quella contro il Chievo in Coppa Italia e questa contro il Genoa. Il denominatore comune può essere la mancanza di quei tre giocatori? No, guardi, se questo è un se questo gruppo ha un merito, e forse anche così, con un po' di non lo so se presunzione o correttezza, non lo so, io non ci siamo mai lamentati, mai, né delle partenze, né della Coppa d'Africa, della Coppa America. Abbiamo solo sottolineato che il nostro campionato appunto viveva di fasi e che alcune fasi potevano essere più insidiose di altre. Questa era una partita insidiosa in una fase diversa che noi affronteremo con la nostra, con le nostre qualità, la nostra serenità. Non ci siamo mai lamentati neanche di nessun tipo di episodio e continueremo a fare così. Credo che questo sia l'insegnamento che viene dal tecnico alla propria squadra. Sì, fa bene Guidolina dire queste cose, però non si può credere, e infatti io non ci credo, che in un meccanismo perfetto come l'Udinese, due giocatori importantissimi come Benatia e Asamoah, che sono via per la Coppa d'Africa, oltre a Badu naturalmente, che però è meno fondamentale per questa squadra, non posso credere che queste assenze non verranno pagate, cosa che l'Udinese a mio parere ha già cominciato a fare. Sto leggendo un'agenzia insieme a voi. L'ex fuoriclasse del Napoli Diego Maradona è stato ricoverato in ospedale a Dubai, dove oggi sarà operato d'urgenza per ritirare un calcolo al rene, quindi calcolo renale per Dieghito, che è stato ricoverato e verrà operato. Questo intervento non grave sarà sottoposto a intervento chirurgico in serata e sarà dimesso domani stesso dall'ospedale. Ve la vendo così come viene battuta dalle agenzie. Luca da Torino, buonasera. Sì, ho felicemente ascoltato Guidolin, che è uno dei pochi che parla veramente da persona illustrissima come lei, dottor Genta. Grazie. Allora, due cose velocissime. Vabbè, oggi purtroppo ci sono stati più i rigori non dati che quelli dati, ma questo perché... A chi, secondo lei, a chi si riferisce? Ma un po' a tutti, insomma, ho visto dei rigori molto più quelli che dovevano essere. Comunque, tipo quelli di Torino? Ma io non specifico. No, specifichi, siamo qua apposta. Cioè, sì, i rigori non dati, cioè, ci sono stati quei due tocchi in area di mano, Torino, di Bonucci. Firenze, Genova, però do una buona metà di colpa ai giocatori italiani. Questo perché? Perché ho visto adesso l'inizio della partita campionato inglese, Swansea Arsenal, il capitano dell'Arsenal che ha fatto il sorteggio con la monetina. Cioè, mi sono ancora qui che rido, perché in Inghilterra è veramente la patria del calcio, dello sport, del calcio puro, non lo so come definire. Beh, ma se lo vivono in una maniera diversa rispetto a noi, no? Con le loro distorsioni che conosciamo bene. Sì, però lo vivono in maniera diversa rispetto a noi, e infatti i nostri che vanno lì non vogliono più venire via, no? Basta chiedere ad Ancelotti, uno per tutti. Sicuramente. Quindi... E poi, se potevo chiudere velocissimo, sì. Dopo la, diciamo così, io che definisco carnevalata della dirigenza del Milan sulla così presunta cessione di Pato, l'avesse fatta la dirigenza dell'Inter, penso che tutti i giornali ne parlerebbero per giorni e giorni, insomma. Perché, perché dice carnevalata? Ma perché, voglio dire, vai a vendere una macchina per comprarne un'altra, quella che vuoi vendere improvvisamente si inceppa. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, visto la comunque grande nobiltà e sapienza tattica e manageriale della dirigenza del Milan, lo dico molto, molto scorsamente. Gagliani stava costruendo l'ennesimo capolavoro, no? L'ennesimo castello di carte immaginifico. È arrivato il proprietario, ha soffiato sul castello di carte, Galliani, darei qualunque cosa per sapere che cosa ha pensato in quel momento, però tant'è, insomma, Pato non vuole andare a Paris Saint-Germain, Berlusconi non vuole cedere Pato a Paris Saint-Germain, e tra parentesi, secondo me fa pure bene, al di là di tutto, perché torno a ripetere, io un cambio Pato-Tevez non lo farei. Non so, Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera, che ne sa infinitamente più di me. Ciao Fabio. Ma no, io non ne so più di te. Buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera. No, no. Non so se era un cambio da fare, mi pare che l'operazione era nata in una maniera e poi è deviata su un'altra pista, insomma. L'idea era quella di prendere Tevez al posto di Cassano, probabilmente sì, solo per 5 mesi, e poi fare un bilancio al mese di giugno. E poi ci si è messa l'Inter, però. E poi ci si è messa l'Inter, ci si è messa il Manchester City, che non voleva un'operazione di questo genere, voleva vendere definitivamente Tevez, sia pure con la formula del prestito con obbligo di riscatto, insomma. E credo che questo poi abbia complicato un po' i piani, perché credo che la cifra finale si sia un po' troppo dilatata. Allora, un conto è avere Tevez in prestito per 5 mesi, un conto è doverlo prendere a una certa cifra avendo già Pato in casa, insomma. E lì nemmeno Harry Potter Galliani è riuscito a far spuntare i quattrini necessari, se non che sarebbero arrivati alla cessione di Pato. E comunque è evidente, Fabio, che è un derby che è durato tutta la settimana, che è girato intorno a Tevez, cui il Cagliari oggi ha aggiunto ancora qualcosina, rendendolo ancora più affascinante e importante. Però su Tevez, sull'interessamento dell'Inter per Tevez, al di là del rompere le scatole al Milan, è segno di un'inversione di tendenza, mi pare, per l'Inter. Ma che va su un giocatore pesante come ingaggio, come costo, come importanza all'interno, peso specifico all'interno di una squadra. È un'inversione di tendenza questa. No, ma non c'è dubbio, anche perché se non verrà scelto Tevez, comunque un'altra operazione importante verrà fatta. O adesso o al mese di giugno. Direi che la situazione sia un po' economica e finanziaria dell'Inter si è un po' stabilizzata, il monte ingaggi piano piano sta scendendo, e questo non vuol dire che Moratti non voglia più investire nell'Inter, però la situazione era arrivata a un punto che non era più sostenibile, ma non perché Moratti non avesse più i soldi, ma perché secondo me non è pensabile che un presidente anche molto ricco possa spendere ogni anno 100 milioni di euro, e quindi è chiaro che devi rimettere a posto un po' i conti. Lo sforzo era stato massimo per arrivare dove l'Inter è arrivata, poi è chiaro che devi cercare di stabilizzare i conti e dare solidità alla società. Guardando il derby di questa sera, a cui, ripeto, il Cagliari ha aggiunto benzina, hanno ragione gli allenatori in fondo, no? Che ieri hanno detto il Milan può affossare l'Inter, cioè può distruggere la rimonta dell'Inter, almeno in chiave scudetto. L'Inter, come ha detto Ranieri, può dare un fondamento invece solido a questa rincorsa. Sì, io all'Inter in corsa per lo scudetto, visto come ha cominciato, non ci ho mai creduto, diciamo. Io neanche, tu lo sai. No, anche per un fatto aritmetico, insomma, perché mi pare che al di là della partita di stasera, che è un derby che forse vive anche di motivazioni particolari, ma non è pensabile che l'Inter possa fare così tanti punti al punto in cui è per arrivare in alto e puntare a vincere lo scudetto, insomma. Però è chiaro che se stasera l'Inter dovesse vincere, si rilancia in tanti modi, può pensare concretamente a un posto in Champions League, visto anche come è andata l'Udinese oggi, e cambiano sicuramente le prospettive, non credo per lo scudetto, però poi sarà il campionato il lungo, vedremo, insomma. Grazie Fabio. Grazie, buon lavoro e buon derby. Intanto sentiamo insieme con Conte, Antonio Conte, microfoni di Sky. Non ci saranno partite facili, ogni partita sarà sudata, così come è stata sudata la partita di Lecce, che oggi è andata a vincere a Firenze, e oggi è stata sudata la partita contro un Cagliari che sicuramente attraverso un ottimo momento di forma e avendo recuperato un po' tutti gli effettivi, sicuramente una buona squadra. Quindi insisto però sempre sul discorso dei centrocampisti, anche dai cambi si vede, no? Cioè, in attacco ha tantissime alternative, oggi nel secondo tempo di fatto abbiamo visto un tridente tutto nuovo e c'è anche Quagliarella infortunato. Lì in mezzo non ha in questo momento la possibilità di fare dei cambi all'altezza di quei tre. Ma noi andiamo avanti col gruppo che io ho a disposizione, quindi questo è fuori dubbio. Abbiamo cercato di cambiare la partita dando più linfa, più vitalità, più freschezza ai tre davanti. Per poco non siamo riusciti, perché sia Krasic che Del Piero comunque hanno avuto un'occasione importante. E si va avanti sapendo che il nostro cammino è un cammino fatto di lavoro, un cammino fatto di tanta fatica come quella di oggi, per cercare di portare a casa la vittoria. Oggi non siamo riusciti, però penso che a livello di impegno non posso rimproverare assolutamente niente ai ragazzi. Così Conte, che dunque resta in fabbrica, vuole una Juventus come ha sempre voluto, con la tuta blu. Flavio da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, sì, e sentendo anche le parole di Conte, però io volevo parlare più di quello che deve fare la Juve a livello di mercato. Oggi ultima occasione per Krasic, sprecata, quindi secondo me, volevo chiedere anche se ci sono delle notizie più fresche, se ha trovato acquirenti o meno. Quindi la mia domanda era: cosa deve fare la Juve per limitare il gap che sicuramente c'è col Milan a livello di mercato, intendo. Sì. Però mi sembra un mercato anche a risparmio, no? L'ha detto Conte diverse volte, qui denari da spendere non ce ne sono. Potrebbero arrivare dall'uscita, ma andrebbero più alla voce risparmio, no? Perché la Juventus ha un sacco di giocatori inutilizzati, sottoutilizzati o addirittura fuori rosa, molto costosi. Anche Krasic è un giocatore non più utile, probabilmente non più gradito, che però ha costato molti denari. Ecco, la Juventus ha una gestione del mercato abbastanza curiosa, deve prenderne una decina per trovarne due o tre buoni e poi però gli altri restano sul gobbo, perché sono giocatori con un ingaggio pesante, mi riferisco ai tre attaccanti in uscita, allo stesso Krasic, Elia ha pagato molti soldi in estate, mai visto in questa stagione, Stigarribia ha pagato un po' meno ma visto pochissimo in questa stagione, è stato fatto un sacco di spesa di esterni in estate, adesso sono tutti lì, bisogna pagarli e pagare un bel po' di soldi, e servirebbero altri denari per il mercato. Dunque poi proveremo a chiedere lumi a chi ne sa di più, però lo vedo difficoltoso il mercato di potenziamento invernale della Juventus, che pure a mio parere avrebbe bisogno di un paio di grandi interpreti, uno difensivo certamente, avrebbe bisogno di un leader in mezzo alla difesa, ma sto scoprendo l'acqua calda, e avrebbe bisogno, cosa che magari arriverà, di un ricambio per Pirlo, potrebbe essere Pizarro, comunque di un giocatore di personalità a centrocampo. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. 1400 aziende a Vicenza, capitale del gioiello, dal 14 al 19 gennaio. Vicenza Oro Winter, l'appuntamento internazionale dedicato alle tendenze di oro e gioielli. Vicenza Oro Winter, il nuovo mondo della gioielleria. T-Gold, il salone internazionale dedicato al mondo della tecnologia per la lavorazione dei metalli preziosi. Vicenza Oro Winter, dal 14 al 19 gennaio, solo per operatori. Vicenzafiera.it. Che cos'è un'azione concreta? È aiutare un amico, è non ostacolare la carriera della tua compagna, è non temere di esporsi per sostenere una questione di principio. Se sentite anche voi il bisogno di azioni concrete, partecipate all'aumento di capitale Unicredit. Investite in una grande banca per far crescere insieme un grande paese, il nostro. Informatevi su www.unicreditgroup.eu. Prima dell'adesione leggete il prospetto. Unicredit, la banca made in Italy nel mondo. Viene ad aiutarmi, anzi dillo anche a Giulio. Sto stirando. Sono andato all'IKEA. Lo so, le tazze da tè. Riuscirai a portare su 6 tazze da tè? Le tazze da tè sì, ma per la poltrona ho bisogno di una mano. La? Poltrona, per bere il tè. Con gli sconti IKEA fino al 40%, portate a casa qualcosa in più. E se siete soci IKEA Family o IKEA Business, vi aspetta un extra sconto in negozio. Per date e modalità visitate IKEA.it. L'INAIL mette a disposizione delle imprese 205 milioni di euro per la sicurezza dei lavoratori. Il bando è su inail.it. INAIL, al lavoro con te. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani giornata nuvolosa sulle regioni adriatiche, soprattutto tra il Veneto e il Molise. Nubi che per lo più al mattino saranno accompagnate da deboli precipitazioni su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, che saranno nevose a quote molto basse. Molte nubi anche su Calabria meridionale e isole maggiori, con piogge sparse in Sicilia e Sardegna orientale, quota neve intorno a 800-900 metri. Bel tempo su Alpi, Liguria e regioni tirreniche fino al nord della Calabria. Attenzione alla presenza delle nebbie tra Piemonte e Lombardia. Temperature stazionarie e un ulteriore lieve calo. Valori mattutini intorno allo zero al sud, ma fino a -6-7 gradi in alcune località del centro-nord. Venti freddi orientali anche di moderata intensità. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. Con questo è tutto. MBA Part-Time QA, in collaborazione con University of Michigan, Dearborn, USA. Un'esperienza unica di crescita manageriale per affrontare il mercato globale con un approccio vincente. L'unico MBA in Italia che include la frequenza ai corsi MBA online della University of Michigan. MBA Part-Time QA, una scelta di valore. mbaqa.it. Gennaio 2012. Scendono in campo gli ecoincentivi Ford. Oltre 5.000 euro di vantaggio se acquisti la tua nuova Ford. Ford Focus con clima, radio CD e cerchi in lega a 15.250 euro. Anche sabato 14 e domenica 15. Ford, sponsor ufficiale della UEFA Champions League. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800-425-325 o creditreform.it. Nella vita hai imparato a restare al tuo posto, essere all'altezza delle aspettative, contare sempre fino a 10, non deludere mai le speranze dei grandi. Ora che conosci tutte le regole, dimenticale. Nuova Mercedes-Benz Classe B, una rivoluzione in termini di design, una rivoluzione in termini di tecnologia. Osare diventa la regola. Provala sabato 21 e domenica 22 gennaio e scoprirai che tutto è cambiato. State ascoltando un programma offerto da Arancia Rosaria, la salute vien mangiando e bevendo. Aranciarosaria.it. A tempo di sport. Ecco che torniamo, c'è sempre Conte che sta parlando della sua Juventus di oggi. Sentiamo cos'altro da dire. No, nulla, perché ha terminato il suo intervento. Ma Stefano da Imperia, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Tanto per cominciare, complimenti per la trasmissione. Grazie. E per la possibilità di parlare che ci dà. Ma ben volentieri, anzi 800240024, più siete più ci divertiamo, insomma. Dica. Allora, ascolti, io vorrei fare due domande molto veloci. La Prego. Prima riguarda la Juventus. Volevo chiedere se secondo lei non è forse, diciamo, dovuto a fatti contingenti riguardo a determinate, a tante squadre della nostra Serie A, il fatto che la Juventus sia così in alto in classifica e non sia forse troppo sopravvalutato il valore della squadra, secondo lei. E poi la seconda domanda, molto veloce, è che volevo chiedere a lei, al giornalista con cui ha parlato prima della Gazzetta dello Sport. Corriere della Sera, Fabio Monti. Com'è possibile dire che non ci sono, cioè praticamente ci sono pochissime possibilità di rientrare in una lotta a scudetto per l'Inter se stasera dovesse vincere il derby con 19 partite di ancora da giocare e con alla fine della fiera solo 6 punti di distacco dalla prima? No, ma guardi Stefano, io parto da qua, all'Inter non riesco a credere a un Inter che rientra nella corsa a scudetto. Certamente può farlo, certamente il derby di stasera ha un peso specifico enorme, più per l'Inter che per il Milan, perché alla luce anche dei risultati di oggi pomeriggio, in particolare di quello della Juventus, in fondo al Milan van bene 2 risultati su 3, anche un pareggio non sarebbe da buttare. Per l'Inter invece c'è un risultato solo e passa attraverso la vittoria, una vittoria che potrebbe anche emotivamente cambiare la stagione dell'Inter. Certo, è difficile credere comunque ad una squadra che in questo momento è e resta a 9 punti dal vertice, che ne ha 4 davanti. Insomma, è difficile credere ad una rimonta di questo tipo. Poi a Ranieri una era già quasi riuscita, ve la ricordate bene. Non lo so, è chiaro che, torno a ripetere, i numeri stessi dicono Juventus 38, Milan 37, Udinese 35, Lazio 33, Inter 29, che la partita di stasera è cruciale. Io fossi in Ranieri, fossi nell'Inter, negli interisti, fisserei lo sguardo sull'Udinese, su quel terzo posto che consente la partecipazione alla prossima Champions League, perché credo che l'obiettivo minimo per l'Inter sia e debba essere quello, cioè una stagione senza Champions League sarebbe anche economicamente pesantissima per l'Inter, e quindi credo che dopo la partenza che è stata fatta eviterei voli pindarici e fisserei l'attenzione su quella quota 35 alla quale l'Inter questa sera vincendo potrebbe avvicinarsi moltissimo. Quanto alla sopravvalutazione della Juventus, anche qui mi limito a leggere la classifica. La Juventus ha avuto delle battute a vuoto, in particolare parlavo di questo colore rosso-blu che alla signora non sta bene, questi pareggi anche contingenti e diversi se vogliamo contro Bologna, Catania, Genoa e oggi contro Cagliari sono battute d'arresto che ci possono anche stare. Sono curioso di vedere le prossime 2-3 partite della Juventus, perché non dimentichiamo che domenica scorsa vinse a Lecce in maniera tutt'altro che brillante. Oggi c'è stato questo pareggio contro un Cagliari che nulla ha rubato, che sta benissimo, ma che certamente suona come 2 punti persi per la squadra di Conte. C'è un mercato in divenire, c'è Borriello che oggi ha fatto il suo debutto, c'è Quagliarella di nuovo fermo, insomma ci sono diverse cose da aggiustare, ma una Juventus da corsa io a questo punto, da corsa fino in fondo io a questo punto ci credo, anche se continuo, e questo fin dall'inizio, a considerare il Milan come la squadra nettamente favorita. Ecco, se il Milan è favorito, vediamo se la Juventus sarà così brava da riuscire a portargli via lo scudetto dalle mani. Maurizio, Napoli, buonasera. Buonasera, dottor Genta, buonasera. Due cose. Innanzitutto volevo dire da tifoso del Milan che non sono assolutamente dispiaciuto per il non mancato arrivo di Tevez, e mi auguro che non arrivi, perché lo ritengo l'ennesima figurina, potrò anche sbagliarmi. Che non è la storia della volpe dell'uva, no? Ci crede davvero? No, penso che in attacco potrebbe andare bene Maxi Lopez, che l'intervento deve essere fatto a centrocampo, dove il Milan ha 3, a mio avviso, soltanto 3 centrocampisti validi, e il resto è quasi da pensione o purtroppo per Gattuso ci sono altri problemi di salute. Villarzilla, poi, insomma. Un'altra considerazione, vedo che non si è ancora Villarzilla parlato dei 3 falli di mano in area della Juventus. Se la Juventus può giocare a palla a calcio anche con le mani, allora Conte invece di 3 centrocampisti dovrebbe prendere dei pallavolisti. Ma anche da questi segnali capiamo che la Juventus, da questi segnali, da queste telefonate, da queste lamentele, capiamo che la Juventus è tornata nei giochi che contano, no? Anche questi sono segnali. Vista la partita di oggi, certamente ci sono stati episodi su cui il Catania, il Cagliari può recriminare, come ha fatto d'altra parte. Sì, al Milan servirebbe rivitalizzare la Villarzilla dei centrocampisti, ma l'intervento verrà fatto in attacco. Maxi Lopez se ne è parlato molto, non lo so, certamente Tevez è un'altra cosa. Certamente se per avere Tevez devo sacrificare Pato, che ha 22 anni, che ha avuto diversi guai fisici, che secondo me non è stato allenato nel migliore dei modi nelle ultime stagioni, perché tutti quei problemi fisici non possono essere uno dietro l'altro una casualità, io lo continuo a considerarlo uno dei più forti attaccanti del mondo e un giocatore dal potenziale ancora in buona parte da esplorare. Io di uno così non mi priverei per inseguire un giocatore certamente forte, talentuoso, forse più cattivo agonisticamente come Tevez, che però continua a considerare un giocatore abbastanza sopravvalutato. Intanto notizie che arrivano anche da Twitter e dai vari forum in giro. riguardano due allenatori. Uno è Tesser del Novara, che non è minimamente in discussione, almeno così dice Pederzoli, esonero non contemplato nella nostra politica, quindi Tesser resta Novara, e mi sembra una politica estremamente saggia, perché questa squadra, molto debole al momento per la Serie A, è la screatura di Tesser, quindi fa benissimo il Novara ad andare avanti per questa strada. Altra voce incontrollata invece quella che parla di un possibile ritorno di Mangia sulla panchina del Palermo, cosa che mi stupirebbe zero o quasi. Roberto da Tortona, buonasera. Buonasera signor Genta. Ascolti, io le volevo dire, la Fiorentina con la situazione che si è venuta a creare, venduto Gilardino, non rischia di fare la fine della Sampdoria dell'anno scorso? Qualche rischio c'è, caro Roberto, qualche rischio c'è, perché la Fiorentina è, in questo momento è onestamente piuttosto debole, deve giocare, come lei sa, in una situazione di emergenza, con Jovetic prima punta, che a Novara può anche funzionare, contro squadre diverse magari no, o comunque a medio-lungo termine magari anche no. Cerci, che è stato il giocatore offensivamente più importante dei Viola nella prima parte della stagione, nella quale onestamente Gilardino non si è visto, che anche oggi non si è alzato dalla panchina. Oggi Delio Rossi è tornato sulla coppia Jovetic-Ljajic, che comunque aveva fatto benissimo a Novara, non ne ha cavato moltissimo. È certamente una squadra incompleta, incompiuta, piuttosto debole, che rischia non poco in questa stagione, che è di transizione. Anche lì si tratterà di capire con calma quale sia il percorso che i della Valle intendono fare con la Fiorentina. Certamente in questo momento la Fiorentina è una squadra, ripeto, piuttosto debole. Non so quali siano gli interventi previsti sul mercato. È chiaro che un attaccante con la partenza di Gilardino alla Fiorentina serve, perché in situazioni di emergenza si può giocare per un po', ma non può diventare una condizione stabile, altrimenti si finisce come oggi, cioè perdere in casa con il Lecce, una sconfitta che lascia la Fiorentina un paio di spanne appena sopra la lotta a salvezza, perché leggo la classifica: Fiorentina e Palermo, che pure comincia ad avere una classifica preoccupante, un punto in tre partite, lo ricordo. Fiorentina e Palermo hanno 21 punti, uno in meno di Parma, Cagliari e Catania, che comunque deve la cui classifica deve essere aggiustata con la chiusura della partita di ieri con la Roma, cosa che avverrà a febbraio. Ebbene, Fiorentina e Palermo 21, Atalanta 20, Siena, Bologna 18 punti, Cesena 15, Lecce e Novara 12. La classifica dei Viola comincia ad essere preoccupante. 800 24 00 24 per intervenire in A Tempo di Sport, per aspettare insieme il derby, per parlare di quello che volete, anche di mercato. Insomma, tutto questo dopo il traffico. Strade in diretta. Per lavori segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia in direzione Torino tra Salbertran e Susa Ovest. Per traffico intenso sulla 5 Torino-Ossa si rallenta, sempre verso Torino tra Quincinetto ed Ivrea. Traffico a rilento anche verso Roma sul tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare e via Togliatti e sulla diramazione Roma Sud a partire da Torre Nova. C'è traffico anche lungo il tratto milanese della 4, code a tratti verso Torino tra Cormano e Viale Certosa. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio. A Tempo di Sport. Ha ragione Paolo da Prato a sottolineare via SMS 349-238-6666 quello che è un dato di fatto, cioè che Pato era stato venduto. Inutile fare discorsi tecnici, è mal visto sia da Allegri che da Ibrahimovic. Invece no, io farei discorsi tecnici domandandomi perché sia mal visto da Allegri. Ci sono dei problemi di rapporto con Ibrahimovic che non sono cosa recente, però un giocatore di questo tipo, insomma, io credo sia, per usare un'espressione abbastanza stereotipata, un patrimonio della società, considerata l'età e considerato il talento. Quindi ci sarebbe da domandarsi anche le ragioni per le quali ciò accade. È chiaro che Allegri, che in settimana ha rinnovato questo rinnovo che è stato atteso per lungo tempo e per il quale Allegri comunque è stato nervosetto per la prima parte di questa stagione, magari anche ha ragione, ricordo che il contratto è la scadenza a giugno. Si tratta di capire come evolverà questo sottile braccio, questo nascosto braccio di ferro tra una proprietà che vede giustamente di buon occhio Pato, al di là di discorsi personali che non voglio fare, che su sfondo rosa, vede di buon occhio Pato, e Allegri che invece continua a vedere il papero un po' così, preferendogli Boateng trequartista, preferendo un assetto diverso che comprende Robinho, ovviamente l'intoccabile Ibrahimovic, e Pato un po' di meno. Chiedo aiuto a mio amico Paolo Barcigia da Mediaset. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Carlo. Cosa ne pensi di questa vicenda? Guarda, ne penso che nonostante il rinnovo del contratto per altri 2 anni, Allegri continuerà ad essere un allenatore sotto la lente di ingrandimento di Berlusconi, perché è fin troppo chiaro che, conoscendo il personaggio e conoscendo insomma il suo modo di operare, adesso a maggior ragione che è lontano dall'impegno politico, Berlusconi insomma vuole centrare molto di più nelle cose del Milan, se non di tutti i giorni, ma nelle cose della settimana. Sì. Ed è chiaro che, se ricordiamo anche alle perplessità espresse da Berlusconi sul gioco di Allegri dopo Milan-Barcellona di Champions League, quando Berlusconi si lasciò andare a delle considerazioni sul possesso palla, sul gioco offensivo e stile Barça, e poi qualche cronista riportò dopo la cena al solito ristorante milanese che Berlusconi parlò di una sua mezza idea, di una sua passione per l'ipotesi Van Basten allenatore. Ecco, diciamo che adesso questa ipotesi è ovviamente formalmente scongiurata, anche perché c'è stato il rinnovo. Però è chiaro comunque insomma che Allegri, ma come qualsiasi altro allenatore in questa fase della vita di Berlusconi, sarebbe un po' più sotto la lente rispetto a qualche tempo fa. Ha solo una chance vincere. Sì, direi di sì, però anche cercare di convincere sul piano del gioco, cioè di fare un gioco propositivo e offensivo, che è un po' quello che ripete sempre Berlusconi, adesso che sia Pato più o meno in mezzo alle vicende, ecco. Però mi pare che più o meno le cose vadano in questo senso. Ma per quale ragione Allegri e Pato non si prendono? Ma no, io credo che insomma l'approccio di Allegri con i giocatori mediamente sia un approccio abbastanza uguale per tutti, però piuttosto, proprio perché è uguale, a volte con qualcuno non tanto confortante, no? O confortevole. Magari Pato, di fronte ad alcune critiche e ad alcune perplessità, avrebbe preferito magari sentire un po' di calore da parte dell'allenatore, oppure avrebbe preferito maggior dialogo. Poi è chiaro che per il tipo di gioco, per le caratteristiche di Pato, che se vogliamo è un po' un solitario, un anarchico dentro agli schemi d'attacco del Milan, ci sia anche un maggior gradimento da parte e dell'allenatore e soprattutto di Ibrahimovic per altre soluzioni, no? Sì. Cassano, quando c'è Cassano, Ibrahimovic l'ha detto, oppure Robinho. Robinho, per esempio. Ecco, io credo che sia anche il modo di giocare di Pato, che magari non è un modo di giocare che esalta molto gli allenatori o i compagni, che preferiscono l'organizzazione di gioco, no? Un po' come era Shevchenko ai suoi tempi. Certo, se parlavi con Zaccheroni di Shevchenko, si metteva le mani nei capelli per la sua anarchia. Poi è chiaro, fanno gol, facevi gol e quindi tutto passa. Resta il fatto che insomma già gli hanno fatto fuori Ronaldinho, no? Allegri gli ha fatto fuori Ronaldinho, gli ha fatto fuori Pirlo, adesso voleva fargli fuori anche Pato, e gli hanno detto no, aspetta un attimo. La cosa che mi suona strana è che Berlusconi si è intervenuto proprio alla fine a scombussolare questo ennesimo capolavoro di fantasia che Galliani stava facendo, no? Ah sì, perché guarda, quando Galliani si mette in testa un'operazione, soprattutto si fa fotografare, si fa vedere in giro, insomma è difficile che la manchi. Infatti la stava facendo. Devo dire che comunque la stava facendo sempre con l'avallo di Berlusconi, perché la proposta originaria del diritto di riscatto che poi era passato ad obbligo di riscatto condizionato, l'altro giorno stava diventando obbligo di riscatto e basta. Sì. E quindi un po' hanno dovuto modificare, no? Anche certo. La fantasia e l'abilità di Galliani è stato molto bravo nel portare dalla sua parte l'agente del giocatore e il giocatore. Però certo che l'uscita di Berlusconi così, e poi soprattutto il fatto che si sia assunto lui la responsabilità di questa operazione, certo non fa fare una bellissima figura a Galliani, che però oltre ad essere un bravissimo dirigente, insomma, è sempre uno che poi di fronte a queste cose ha detto obbedisco, no? Certo, no, ma è evidente, infatti io prima ho detto dare qualunque cosa per sapere cosa è passato dalla testa di Galliani, cosa che non sapremo mai. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere invece, Paolo, è sulla Juventus, che adesso tutti si interrogano su quale possa essere il futuro mercato a breve termine di questa squadra. Juventus, che fa sempre un mercato piuttosto curioso, deve prenderne una decina, pagandoli tanto anche, per trovarne 3-4 buoni, salvo poi dire non c'è una lira o non c'è un euro. Sì, beh, insomma, con Borriello praticamente è un'operazione che poi non sappiamo se costerà e quanto costerà, perché il riscatto anche lì non è un obbligo di riscatto. La Juventus adesso sta cercando un jolly difensivo, però credo che oramai si stia un po' rassegnando a perdere Caceres, o quantomeno a non alzare la posta sulla proposta originaria di 1 milione per il prestito oneroso, più il 6-7 di riscatto. Il Siviglia vuole 10-11 e questo è per quanto riguarda l'aspetto difensivo. Poi la Juventus, dicevamo, ha sistemato l'attacco, adesso sta ragionando sul centrocampista. Io credo che in qualche modo stiano insistendo con la Fiorentina per arrivare a Berardi. Però chiaramente insomma, non sono trattative semplici, anche perché la Juventus in questa fase comunque non ha molta disponibilità economica e sta cercando di fare delle operazioni tutto sommato almeno inizialmente in prestito. Certo. Paolo, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie a Paolo Bargigia da Mediaset. Torno a parlare con gli ascoltatori con grande piacere. 800 24 00 24 è il numero verde. E si scatena sul contatto di SMS sta polemica a distanza, anche stucchevole se volete, tra e 7 giorni fa rigore negato alla Juve e oggi invece è andata bene, e meglio che i milanisti non parlino di rigori contro la Juve, la cronaca è questa, fate voi se volete chiamate. 800 24 00 24, Daniele da Bari, buonasera. Buonasera, complimenti molto per il programma che lei conduce. Grazie. Volevo porle 2 domande velocissime. La prima riguarda il calciomercato del Milan. Io vedo il dottor Galliani che adora sempre andare alla rincorsa di attaccanti. Sì. Però guardando la situazione attuale, abbiamo un centrocampo da simpatizzante milanista di vecchie glorie, ahimè. Sì. Ambrosini, Gattuso, cioè sono un pochino arrivati. Villarzilla, come dicevo prima. Ecco, un attimo l'ho persa perché mi si è spenta la radio. Per la Juve invece vedo un centrocampista in esubero, appunto, di cui lei parlava prima, che è Krasic. Non potrebbe rientrare Krasic nei programmi del Milan? Krasic è un giocatore che ha caratteristiche molto diverse e tutto sommato non granché funzionali al Milan, Daniele. Cioè è un esterno che punta dritto la linea di fondo e insomma... È un giocatore che a me sembrava molto promettente l'anno scorso, che però non ha saputo aggiungere molto a questa sua caratteristica, anche dal punto di vista tattico. Cioè, in soldoni non so cosa potrebbe farsene nel Milan di un giocatore con le caratteristiche di Krasic. Certamente quel centrocampo molto datato andrebbe rinfrescato, magari il mercato di gennaio non è l'occasione corretta per farlo. Si continua a parlare di un attaccante, io credo che alla fine un attaccante arriverà, non so sinceramente quale. Gilberto Sarzana, buonasera. Buonasera, niente, la ringrazio di essere collegato. Volevo dire solo questo, sono d'accordo con lei, Patrio è un patrimonio e non può certamente essere ceduto a 22 anni. Cerchiamo di capire bene che sono le potenzialità di questo giocatore e soprattutto aiutiamolo a venire fuori dei problemi fisici che l'hanno sempre attanagliato. Per quello che riguarda il mercato, guarderà un centrale di centrocampo, perché francamente tra Ambrosini a cui diamo tanti meriti, e Van Bommel credo che qualche problema il Milan lo possa avere. Sì, sì, è così. E quindi abbiamo bisogno di individuare un giocatore sui 24-25 anni che abbia una buona esperienza, che purtroppo... Montolivo? È Montolivo, ma non so se è un centrale di centrocampo e una mezzala sinistra. Lei ho capito, dico che non è esattamente quel giocatore lì cui lei fa riferimento, cioè non è un giocatore che si mette davanti alla difesa e è capace di fare anche interdizione, però Montolivo può essere una buona idea comunque per cominciare a rinfrescare quel centrocampo. Casino mai giustificabile, casino a Firenze, dove è in corso una protesta dei tifosi viola, che già c'è stata una protesta in tribuna che ha richiesto l'intervento della polizia. Ora le notizie dicono che i tifosi del Fiorentino intorno all'Artemio Franchi, per bloccare le uscite principali da dove giocatori e dirigenti dovrebbero lasciare lo stadio, un gruppo di tifosi avrebbe anche cercato di entrare negli spogliatoi ma è stato bloccato dalle forze dell'ordine. La richiesta dei supporter viola è quello di un confronto con la squadra, attenzione, resta alta, sai perché sono in Italia, ci servono i confronti tra i giocatori e i tifosi, che pretendono sempre di essere, ma senza alcuna giustificazione, non basta guardare tutto il resto del mondo, possibile solo noi siamo così protagonisti di questo, primatori di questo gioco. Davide da Sanremo, eh? Ah, prima di Davide c'è Giancarlo Tenivella con un ospite da Torino, dagli spogliatoi di Torino. Chi è? Che Mirko Vucinic. Abbiamo iniziato bene, abbiamo continuato a creare occasioni, non siamo stati bravi a finalizzare, poi all'unico tiro in porta purtroppo loro ci hanno fatto gol. Ecco, senti, a Lecce non c'è stata una prestazione brillante così come oggi contro Cagliari, forse la pausa natalizia non mi ha fatto molto bene. Ma secondo me abbiamo incontrato a Lecce una squadra molto ben messa in campo e è andata a vincere a Firenze oggi, non direi che siamo male, poi io preferisco giocare sempre male e vincere. Va bene, quella Juve bella, tonica, vivace che abbiamo visto all'inizio? Ma Juve sempre tonica, tonica e vivace, se no non costruiva 5-6 palle gol a partita. Ecco, ci dici solo da chi sei andato dopo il gol a festeggiare? Massimo Carrera, ok, grazie. Questo era Mirko Vucinic in diretta con Giancarlo Tenivella, sì, perché Vucinic dopo aver segnato il gol al quinto del primo tempo, ripeto, azione meravigliosa quella della Juventus tutta di prima, che ha liberato a un gol facilissimo Vucinic, si è arrampicato sulla tribuna dello Juventus Stadium andando appunto a salutare, abbiamo scoperto ora, Massimo Carrera. Davide da Sanremo dunque, eccoci. Signor Genta, buonasera. Buonasera a lei, sto tornando dallo stadio. Sì. A vedere la Juventus, sono in macchina. E cosa dice? Dico che io sono uno juventino doc, vado a vederla sempre. L'ho vista sempre la mia squadra, ma io penso che comincia a scricchiolare qualcosa. Perché purtroppo Pirlo, se non tiene più i suoi livelli, il centrocampo comincia a ballare e Bonucci, se ci fosse ancora il nostro direttore generale, signor Moggi, Bonucci non farebbe neanche i raccatapalle in questa squadra qui. Io volevo solo chiederle cosa ne pensa di queste voci di mercato che comincio a sentire, che la Juve vorrebbe investire sulla fascia sinistra per Bale del Tottenham. Costa moltissimo. Davide, Bale costa moltissimi quattrini. C'è Ilaria che si lamenta via SMS, ma Barisoni quando arriva calcio quattrini, ma Ilaria è così, soprattutto in tempi di mercato. Bale costa una montagna di soldi e Conte continua a ripetere che è Gereminga, come dicono a Milano, aspettando il derby. No, non credo che la Juventus possa in questo momento andare incontro ad un investimento di questo tipo, semplicemente. La Juventus, ma abbiamo sentito anche prima Paolo Bargigia, cercherà di aggiustare la difesa, che va aggiustata come Davide sottolineava, al di là dei singoli interpreti, e cercherà di fare qualcosa per l'appunto a centrocampo, perché Pirlo è un giocatore meraviglioso ma anche meravigliosamente condizionante, quindi è un giocatore che se rimane su elevati livelli soprattutto fisici ti fa girare la squadra come vuole, altrimenti comincia a diventare, è un giocatore attraverso il quale passa l'intero gioco e quindi comincia a diventare un po' condizionante. È chiaro che non avendo le coppe si può gestire e centellinare al meglio Pirlo, che però non è nemmeno in brillantissime condizioni fisiche già da un po'. Io vorrei cominciare a giocare il derby magari un po' divertendomi, e per questo saluto e ringrazio Giacomo Valenti. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, buonasera. Buonasera a te. Senti, perdere il derby e guadagnare Tevez, ti va? Ma aspetta un secondo, sul fatto del divertimento, il calcio è bellissimo a parte quell'ora e mezza, due prima del derby, bisogna essere onesti, perché la tensione non esiste, la vivi esiste. Male insomma, eh? Bisogna essere sinceri. Com'era la formula? Perdere il derby e guadagnare Tevez, ti va? No, facciamo il contrario, che se ne frega di Tevez e portiamo a casa il derby. Come se ne frega di Tevez? Rubare Tevez al Milan? No, a parte che abbiamo già capito che papà vuol tenere Pato per il cucciolo, lui va bene così. Ma Tevez ti piace o no? Non ho mica capito. No, allora, Tevez piace, Carlo, però ci sono dei momenti dove chi se ne frega di un giocatore, cioè portiamo a casa questo derby se riusciamo a portare a casa, in effetti loro sono molto molto forti, c'è quello lì alto col naso grosso che non mi ricordo come si chiami, che pare che sia bravo, dicono che sia bravino, bravo. Sì, il ragazzo è bravino. Ragazzo bravino. Però credo, sempre tornando al discorso di prima, ci sia un bel gusto comunque a rompere le palle ai cugini anche sul mercato. Sì, però devi poi chiuderla la cosa, no? Cioè, nel senso, domani, va bene, noi, guarda, stasera vinci. Aspetta, sei pronto? Sì. Metti le mani dove vuoi, tanto non si vede per radio. Stasera vinci il derby, domani Moratti si tocca in tasca, tira fuori il libretto di assegni, prendiamo Tevez e vediamo se si può arrivare lassù. Ho i polpastrelli perfettamente allineati. Allineati. diciamo così. No, boh, vediamo. È da giocare. Poi il derby veramente è una partita particolarissima, con un aspetto emotivo clamoroso. Io sono cresciuto a Milano, per cui il primo che hai visto qual è stato? Te lo ricordi? Anno 1973, 2-1 con uno splendido gol, il 2-1 di Facchetti che supera sulla sinistra Schnellinger, sì, e il primo gol era stato fatto dopo 13 secondi. Poi il girone di ritorno abbiamo vinto 5-1 con un certo Pizzaballa in porta per loro, okay? Sì, ricordo. Ecco, insomma, sono anni particolarmente dietro, lo zio Vito, ex giocatore dell'Inter, mi portava allo stadio, mano nella mano, e questo è stato il primo derby clamoroso. Pensa che storia. Il primo che ho visto io era stato un 2-0 doppietta di Beccalossi. Beh, certo, l'hanno scudetto, il ritorno 1-0 sempre Beccalossi, ma sì, cioè, insomma, c'è un aneddoto di un fatto favoloso, su tutto. Sai tutto, ti vedo preparato. Alcuni, altri li ho rimossi, cioè, però sì, posso anche immaginare quali. Beh, ce ne sono quello lì che è impronunciabile, sì. Io portai allo stadio, tra l'altro, mio nipotino, che ai tempi aveva 8 anni. È rimasto traumatizzato. Jacopo. No, è purtroppo è milanista. Cioè, per cui, dire. E la cosa più brutta, mi disse: non ti preoccupare, zio, anche a voi succederà, ma quando mai può essere una cosa simile? E quindi sono dovuto rimanere, l'ho visto tutti e dicono sei, però insomma non mi ricordo più di tanto. Ecco. Esatto, quella partita non fu mai giocata. Quella partita non fu mai giocata, non esiste. Stasera si rivede Snyder, servirà parecchio scotch per tenerlo insieme. Per è ufficiale? È ufficiale? No, ancora no. Sì, va bene, dai, cioè, vediamo. L'importante è che Milito sia tornato a centrare anche la porta, perché centrava l'aria ultimamente, quindi si doveva trovare pronto, ma poi dopo il momento fondamentale scivolava sul più bello. E invece, boh, speriamo. Comunque, la scherza a parte lode al derby e lode allo sfottò. Esatto. E chi ci toglie lo sfottò per violenza o per stupide regole, veramente peste lo colga, ma per anni. Esattamente. Per anni. Esattamente. Esatto. Per cui, perché poi alla fine è questo. Io ho molti amici milanisti e stasera, insomma, ho già caricato il telefonino. E so anche come spegnerlo. Comunque ti informo per la cronaca, caro Ciccio, che io ti voglio molto bene, ma dopo di te chiameremo Melissa Satta e questo derby l'hai già perso. Bello, salutatela tanto. Sarà fatto. Se rinasco faccio Boateng nella vita. Un abbraccione a Giacomo Ciccio Valetti, grazie davvero. Ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24, ma di Pittin non parlate, domanda Angelo da Torino. Pittin ve lo faremo sentire, perché Dario Ricci di là lo sta intervistando dopo. Però Formula PEC TNT Post, un anno gratis, il secondo a 6 euro. Clicca tntpost.it. vi presenta Strade in diretta. Sulla 32 Torino-Bardonecchia ci sono code per lavori tra Salbertran e Susa Ovest in direzione di Torino. Sempre in direzione Torino, traffico intenso e rallentato sulla 5 tra Pont San Martin e Quincinetto. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si resta in coda a causa del traffico intenso verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. C'è traffico anche lungo il tratto milanese della 4 con code a tratti verso Torino tra Milano Est e il raccordo per Viale Certosa. Rallentamenti e code per traffico intenso in direzione di Roma sul tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare via Togliatti e sulla diramazione Roma Sud a partire dallo svincolo di Torrenova. Prudenza poi per la nebbia in banchi che riduce la visibilità tra Piemonte, Lombardia e Veneto e viste le temperature al di sotto dello zero anche in pianura, lungo i percorsi del nord sono possibili tratti ghiacciati. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Tempo di sport. Domandano gli ascoltatori anche via SMS che impressione ha fatto Boriello. Ma nessuna, sinceramente, visto troppo poco in una Juventus che si era buttata in avanti senza tantissimo ordine. Da rivedere, certamente non ancora a posto dal punto di vista fisico, non ancora in condizione evidentemente di incidere. Paolo da Milano, buonasera. Sì, buonasera, vorrei fare due considerazioni veloci, sentire cosa ne pensate. Una sul caso Tevez, cioè nel senso che allora, Galliani è andato, io sono milanista, Galliani è andato a Manchester sapendo benissimo, confidando sulla cessione di Pato, no? Quindi cessione avallata dal mister Allegri, certo. Che chiaramente al di là dell'offerta del PSG, cioè al di là delle dichiarazioni di facciata fatte poi ieri, l'altro ieri, ma gli ha preferito Tevez, un giocatore giovane che avrà i suoi problemi muscolari, altri problemi, a 22 anni nessun giocatore ha segnato, forse escluso Messi, tanto come lui, no? Quindi chi discute Pato secondo me non capisce nulla di calcio, no? Sì. Questo è una quindi una detto bella... questo ha fatto bene il proprietario a dire no, aspetta un attimo, Pato rimane qui e Tevez magari un'altra volta, anche perché mi sembra che comunque, Paolo, le condizioni di mercato siano cambiate intorno a Tevez, da prestito con diritto di riscatto a prestito con diritto di riscatto condizionato a prestito con diritto di riscatto e basta, per cui servivano molti soldi, complice l'interessamento dell'Inter, quello del Paris Saint-Germain per lo stesso Tevez, insomma in tutto questo ambaradan le condizioni sono cambiate intorno a questo giocatore e dunque si è resa necessaria la cessione di Pato e Berlusconi ha detto no, secondo me ha fatto bene, secondo lei anche io e lei siamo d'accordo, altri non so. Io quello che vorrei dire questo, a questo punto qui o il fair play finanziario di Platini passa veramente o altrimenti non si capisce perché io devo venire da lei, chiedergli se mi vende la macchina, quando abbiamo trovato il prezzo dell'accordo gli chiedo anche se mi presta i soldi per darmela, capisce? Sì. Quando un altro gli dà i soldi in contanti, quindi veramente sono cose che mi lasciano molto perplesso, no? Sul discorso del Milan, perché ripeto, passa il fair play, dobbiamo vendere le società, gli sceicchi, sì, e certo. Se la giocano fra di loro. Paolo, no? Però il discorso del fair play non dico che stia diventando quasi una scusa, però mi sembra antistorico in questo momento del calcio, non so da quali parti si possa veramente raggiungere questo tipo di formula, anche perché, ma lo scriveva anche Mario Sconcerti sul Corriere della Sera di ieri, mi pare, comunque Milan e Inter sono due casi unici nel panorama del calcio mondiale, cioè due imprenditori cittadini fortemente identificati con la città, qui non sono in ballo né sceicchi né petrodollari né investitori stranieri né altre cose né situazioni molto diverse tipo quelle di Barcellona e di Real Madrid, qui ci sono Moratti e Berlusconi e Moratti e Berlusconi ci mettono i loro soldi finché possono, vogliono, finché ne hanno, quindi sono due realtà che sono uniche, no? in questo tipo di panorama. Direi tanto questione di fair play, mi sembra che comunque la politica del Milan sia quella di spendere ma fino a un certo punto, e il punto necessario per arrivare a Tevez era per i rossoneri raggiungibile se non attraverso una cessione come quella di di patto, altrimenti non c'erano materialmente i denari per avviare un'operazione di questo tipo. Trovo interessante invece l'inversione, ne parlavo prima con Fabio Monti e non so cosa ne pensate voi, questa inversione di tendenza fatta dall'Inter, che fin qui era andata sull'onda del rispetto massimo delle esigenze di bilancio e quindi giocatori con quel tipo di quotazione, con quel tipo di ingaggio non venivano presi in considerazione, invece adesso l'Inter sembra pronta di nuovo a versare molti denari sul mercato, perché molti denari costa Carlitos Tevez. Sempre per vivere insieme il derby, aspettando altre vostre opinioni all'800 24 00 24, vi ricordo questo numero verde, sentiamo che cosa questo promo, questo montaggio fatto da Franco Piantanida, basato su Max Allegri, che ha sì rinnovato il contratto, ma soprattutto è la chiappa fantasmi. Perché? Perché ha giocato 3 derby contro 3 allenatori diversi, gli ha vinti tutti e 3, il quarto si chiama Ranieri, vediamo se riuscirà a mettere nel sacco anche lui. Sentiamo. Certo ragazzi che Milano l'alba ha veramente un sapore particolare, i navigli e la ringhiera, gli operai che vanno a lavorare, la nebbia, la mia mamma e il mio papà, il cappuccino, il panettone, con l'uvetta. Ragazzi Milano mi acchiappa veramente. In area di rigore, contatto, calcio di rigore, fallo di Materazzi che secondo me è scivolato e scivolando ha agganciato il piede di Ibra. Zlatan Ibrahimovic, 1-0. Milano ha fatto bene, all'inizio ha cambiato tutto con il calcio di rigore e dopo abbiamo visto che loro facevano tanti falli, Gattuso ha fatto tanti falli. Pato, 1-2, palla di ritorno, c'è Robinho, poi Pato ancora. Questa partita qua, la storia della partita ci ha messo sempre più in difficoltà, ma non credo che sia stata una questione d'approccio, sinceramente. Tocca primo pallone, la girata a palo e gol! Gol del Milan, Boateng! Boateng segna il gol del 2-1. Milan che ribalta la situazione. Ma il derby è dovuto al fatto che c'è questa partita imminente, la prima della stagione, dove ci si gioca già comunque un titolo. Eh beh, Benitez, Leonardo, Gasperini, anche se non era campionato, Allegri se li ha già messi in tasca tutti e tre. Ci prova contro la quarta Inter diversa, contro il quarto allenatore diverso dell'Inter, ci prova con Ranieri e tra poco lo scopriremo. Intanto però è curioso e interessante notare come il Milan fin qui non abbia mai vinto in questa stagione dei veri big match, né in Champions League né in campionato, perché ha perso con la Juventus, ha perso con il Napoli, ha pareggiato 2-2 con la Lazio, ha pareggiato 1-1 con l'Udinese e adesso c'è la prova derby. L'Inter viene da 5 vittorie in fila, 7 su 8 nelle ultime gare, è in piena rimonta. Il Milan e Allegri possono spegnere il sorriso, credo in maniera definitiva, sulla faccia dell'Inter e degli interisti. Tanto, come annunciato prima, abbiamo cominciato a giocare il derby con Giacomo Ciccio Valenti, però insomma io credo che tutti gli ascoltatori uomini siano d'accordo, il derby lo vince il Milan. Buonasera Melissa Satta. Ciao. Ciao. Ciao, buonasera. Senti, subito a che punto sei con i moonwalk, te lo devo chiedere. A che punto sono con? Il moonwalk. Ah, ma diciamo che io sono specializzato un po' in altro, ancora non ho imparato. Senti, però insomma mi alleno, dai. Ti alleni? Mi alleno, ogni tanto a casa mi alleno. Derby dove e con chi stasera? Ma derby allo stadio, infatti mi sto preparando perché fra un po' esco. E quindi insomma sono con un po' di amici allo stadio. Freddo cane, capriti bene. Infatti sì, mi sto preparando proprio al freddo, stavo proprio pensando di portarmi dietro guanti, sciarpa, cappello, insomma che ne ha più ne metta, perché insomma si gela a Milano, è arrivato il freddo vero, quindi vabbè, però si fa anche questo, dai, per la squadra che si segue e si ama un po', si fa anche questo. Senti, ma milanista perché? Raccontami la tua storia. Ma sono sempre stata milanista da più o meno da quando sono arrivata a Milano, perché già prima seguivo il calcio, sempre seguito il calcio perché giocavo in Serie C femminile, quindi ho sempre giocato a calcio, ero già appassionata da piccola. E poi sono arrivata a Milano e quando avevo 18 anni con i miei amici e tutto mi portavano sempre allo stadio. Giocavi a calcio? Sì, giocavo a calcio, giocavo in fascia sinistra, in Serie C. Ma dai? Sì, cosa strana ma vera. Quindi ho giocato per 3 anni, cioè ho sempre giocato a calcio, sono cresciuta con 2 fratelli, quindi mi hanno sempre un po' tirato dentro a questi sport un po' più maschili. E poi intorno ai 14-15 anni mi sono proprio appassionata e mi hanno preso proprio in una squadra di Serie C. E quindi ho iniziato anche a fare le trasferte, i ritiri no, perché in Serie C poi non c'erano tutti questi soldi come magari nel calcio maschile e tutto quanto. E quindi magari il ritiro a casa, c'era il mister che andava in giro per la città a cercarci per le discoteche se era tutto a posto, quindi sabato sera a casa e poi la domenica si giocava. C'erano i ritiri, sennò bisognava attrezzarsi per scappare dalle finestre. Ecco, infatti. Senti, che idea ti sei fatta di Massimiliano Allegri? Perché è il personaggio un po' del momento, che insomma non ha firmato il contratto, resta al Milan, però c'è questo sotterraneo braccio di ferro con la proprietà che rende la questione molto interessante. Ma sai, comunque il calcio è per loro anche lavoro, quindi giustamente, come penso in tutti i lavori, ogni tanto quando devi riandare anche un po' a parlare del contratto, l'ingaggio, tutto quanto, cioè ci sono questi tira e molla, queste piccole discussioni, se si possono chiamare discussioni, quindi penso che sia semplicemente una normalità. Poi sai, anche i dettagli, le cose, noi dal di fuori possiamo sapere una parte, no, magari di tutte le verità, quindi sai, io la vedo una cosa normale. Poi insomma, l'importante simpatico, che faccia bene il suo lavoro, ma assolutamente sì. E poi questo periodo che comunque stiamo andando bene, anche l'anno scorso, tutto, non è che si può dire, non gli si può dire niente, dai. A questo sicuro. Non possiamo lamentarci. Melissa, adesso ti lascio andare allo stadio, però dimmi che rapporto hai con Facebook. Con Facebook, guarda, io non sono così appassionata di Facebook, ma più di Twitter. Infatti cerco di aggiornare tutte le persone che mi seguono da Twitter e prendo gli aggiornamenti da lì, quindi magari vi terrò aggiornati tramite Twitter, che è anche un pochino più veloce. Sì, no, ma Facebook un po' meno, però ovviamente ma te lo chiedo apposta, perché ne approfitto, perché comunque il nuovo programma che sto girando con Omar Fantina andrà appunto sul canale Facebook di Comedy Central, e quindi insomma ci devono seguire tutti quanti, sì. E niente, quindi approccerò Facebook in questa maniera, però non ho il mio profilo personale, ma appunto entrerò in Facebook ufficialmente con Comedy Central. Quindi non sei intrippatissima con Facebook, ma ci finisci con questo, infatti lo sto prendendo un po' alla larga, e tutto il fans club, li adoro e tutto quanto, però alla fine ufficialmente mi disse entrerà in Facebook tramite questo nuovo programma che è Amici Letto, che faremo io e Omar. Sì, c'è un ascoltatore che mi prega di chiederti se tu saresti andata a Parigi, a vivere a Parigi. Ma perché no? Trovo che sia una città stupenda, romanticista, però ti dico, meglio Milano e il Milan, dai. Boh, su questo parliamone. Parliamone. Sì. Tiriamo l'acqua al nostro mulino, dai. Non facciamo scappare tutti quanti. Benissimo, un abbraccione, grazie. Grazie a te, buon derby a voi, ciao. Ciao Melissa Satta, Enzo da Savona, buonasera. Buonasera, ciao. Ciao, dimmi. In attesa di vivere il mio derby, che è quello del Torino contro la Juventus, posso commentare il derby e magari tra qualche mese. Speriamo proprio, incrociamo le dita e i polpastelli come il collega di prima, effettivamente. Stefano Valenti, Sì. E il derby degli altri come lo vedi? Scusami? Il derby degli altri come lo vedi, quello di stasera? Il derby degli altri lo vedo, sì, sicuramente il Milan è la squadra molto più quadrata. Però il derby credo che sia derby. In ogni caso, se parliamo di allenatori, sicuramente Allegri è una persona magari particolare in questo periodo di rinnovo di contratto, però è una persona che, pur essendo giovane, è entrato nel Milan e credo che con le pressioni dell'ambiente milanista comunque abbia fatto molto bene. Ranieri è una persona sicuramente più temprata, anche più anziana di calcio, e in un ambiente come dell'Inter sta cercando di, anzi sicuramente ha ridato un campionato dignitoso, sì, a all'Inter. Sta usando forse tutta la sua saggezza, Claudio Ranieri, in questa stagione. Come ho detto quando è arrivato, non ho assolutamente cambiato la mia idea, nemmeno dopo 5 vittorie. Sta gestendo il Sunset Boulevard, il viale del tramonto di questa squadra, un viale del tramonto che è evidente a prescindere da come possa andare e questo derby e di conseguenza il campionato dell'Inter, che comunque io non riuscirò nemmeno in caso di vittoria nerazzurra stasera a vedere da scudetto. Ne riparliamo dopo questa breve pausa. 800 24 00 24, numero verde. Da 1 a 10 che voto merita il tuo intuito? Hai percepito un'auto elegante ma sportiva? Il tuo voto è 7. Hai intuito un crossover a trazione integrale permanente? Meriti 8. Hai colto il motore boxer di nuova generazione? Un bel 9. L'intuito ti dice di venire a conoscerla? Standing Ovation. Perché la nuova Subaru XV non puoi immaginarla. Devi scoprirla. Sabato 21 e domenica 22 negli showroom Subaru. Nuova XV. Il crossover. Ma di Subaru. Debiti? Risolvi il problema definitivamente con BCI. Vai su bci.it o chiama 895-895-0845. Debiti? BCI. Una risposta concreta. Ho deciso di candidarmi. Stai dicendo che vuoi diventare primo ministro? Il premio Oscar Meryl Streep è Margaret Thatcher, una donna che ha cambiato la storia. Sì, la medicina è amara, ma il paziente ne ha bisogno. The Iron Lady, dal 27 gennaio al cinema. Qui non facciamo trucchi, solo chi merita diventa Rosaria. Arancia Rosaria, povera di calorie, ricca di vitamine e sali minerali. E oggi anche in brick. Spremuta 100% di arancia Rosaria, fresca tutto l'anno. Arancia Rosaria, la salute vi è mangiando e bevendo. Sono Dario Romano, imprenditore del Nord. Ti propongo un'alternativa ai soliti investimenti. Sei con me? Scopri con me l'associazione in partecipazione. Investi con me, guadagna con me. Partecipazione, investimento, guadagno sicuro. Sei con me? Sono Dario Romano e io sono con te. Vieni su seiconme.it. Sono tuo. Ho il telaio leggerissimo in alluminio. Mi chiudo in un attimo e occupo pochissimo spazio. Sì, ti voglio. Voglio essere per sempre tuo. Carrozzina, seggiolino, auto, passeggino, tutto in uno. Tu di Foppa Pedretti. La fortuna di essere bambino. Fiat Professional presenta... So Diego, ti spiego. Diego, un salumiere di Parma ti chiede come può portare in giro la sua pancetta senza problemi. Salumiere, impara da me. Per portare in giro la pancetta ci vuole fascino. Oppure ti compri un bel furgone Fiat Professional. Fino al 31 gennaio su tutta la gamma, finanziamento con anticipo zero. E comincia a pagare da settembre. E li paghi a una babbo morto. In più su tutti i veicoli in pronta consegna fino a 1000 euro di extra bonus. 1000 euro? Beh, questo è proprio un colpo di culatello. State ascoltando un programma offerto da Arancia Rosaria, la salute vi è mangiando e bevendo. Aranciarosaria.it. A tempo di sport. Buon pomeriggio Satta, ascoltatori, 800 24 00 24, in arrivo naturalmente tra poco anche uno dei nostri abituali compagni di viaggio, cioè Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Intanto Marco da Monza, buonasera. Buonasera signor Genta, mi Dica. Sente? Sì, sì, la sento bene. Ah, buonasera, complimenti, le faccio i miei complimenti, lei è un grande conduttore. No, volevo dire due parole semplicissime sul fatto di Pato, eccetera. Niente, Berlusconi sta da questa parte del Naviglio, non è uno sprovveduto. Ah. Non so se vi ricordate i tempi di Sacchi, che io ho visto un grandissimo Milan, ma Sacchi era venuto al Milan con Macina, Mancuso e Bortolazzi. Mm. Era intervenuta la società e gli aveva detto, mi ricordo bene, gli aveva detto attenzione, guarda che c'è un certo Tassotti che deve giocare e altri nomi che non mi ricordo. E Mussi, c'erano anche Mussi e Bianchi, volevi. Ecco, esatto. Mm. Però voglio dire, Berlusconi secondo me ne sa di calcio, sa cosa fa e poi tutto sommato è il padrone, è sì. D'accordo? Ma certo, è cronaca mi pare Marco. Sì, però voglio dire. Mi pare sia cronaca, poi la cosa curiosa di questa vicenda sta nel fatto che comunque credo che il proprietario fosse al corrente di ciò che Galliani stava facendo, cioè Galliani ha fatto l'inferno per riuscire a mettere le mani su Tevez. E alla fine, come detto, gli è stato smontato il castello che stava con grandissima abilità costruendo. Quindi l'aspetto interessante, se vogliamo, o curioso, se vogliamo, di questa vicenda è proprio questo. Secondo me Berlusconi ha fatto benissimo a stoppare la partenza di Pato. Perché? non rinuncerei a un giocatore con il talento di Pato per uno che ha certamente talento, ha qualche anno in più, continua a considerare un giocatore un po' sopravvalutato, un giocatore anche difficile da gestire, ma questo per il Milan non è un grandissimo problema, perché la società e la struttura Milan ha una forza tale da riuscire a metabolizzare caratteri molto difficili, e Ibrahimovic, Cassano, mandando anche indietro, ci sono molti altri esempi. Non credo che sarebbe stato un problema gestire il carattere di Tevez per un'organizzazione come quella del Milan. Però al di là di questo, insomma, Pato tutta la vita rispetto a un Carlitos Tevez, che è uno che ha sempre inseguito la scia del denaro, che ha procuratori molto abili a procacciargli altissimi ingaggi, che però secondo me ha raccolto fin qui meno di quanto il talento gli avrebbe permesso. In sostanza Berlusconi ha fatto così, secondo me ha fatto pure bene. Marco. Signor Genta, una cosa veloce le volevo chiedere. Prego. Poi lascio spazio ad altri. Secondo lei Tevez al Milan è finita oppure... Ma finita non lo so, non penso credo, anch'io che non sia credo, finita. Non credo sia finita, però le condizioni di mercato si sono complicate. Sì, si sono complicate, sono sì, diverse rispetto. Sono cambiate. Ma beh, l'abbiamo detto prima, no? Certo, si è passati certo. Da un prestito secco. Allora prendo Tevez in affitto per 5 mesi, visto che là non può più stare, gli pago l'ingaggio, che comunque è molto alto, e lo tengo fino alla fine della stagione, poi vediamo. Un conto è fare così, un conto è dire lo riscatto se ci sono determinate condizioni, un altro conto ancora è dire lo riscatto per molti soldi, per forza a fine stagione, e a quelle condizioni il Milan attualmente, con l'impegno economico ridotto che è stato imposto, il Milan non può arrivarci se non attraverso cessioni. La cessione che poteva procurare tanti soldi era quella di Pato, e la vicenda è finita come... Come sappiamo, poi che sia finita lì non credo, così come non sono ancora arci convinto che Tevez andrà all'Inter. Ma potrebbe anche rischiare di rimanere, come scrivono in Inghilterra, una costosissima palla legata al piede del Manchester City. Francesco da Torino, buonasera. Buonasera. Abbassi la radio per favore, se no sento un ritorno in cuffia fastidioso. Sì, non sono da Torino, sto andando a Fano, sono con un pulmino, però sì. Torno allo stadio. No, a parte il gap col Milan, cioè, tipo, io c'è un Bonucci che quello è un gap a sfora, diciamo, purtroppo Bonucci adesso vediamo di cambiarlo. Poi tutto questo gap col Milan, diciamo che già è fatto, adesso oggi ho visto quello che ho visto nello stadio, c'è Matri che va in area, quello può essere rigore, il Milan c'è il gap di 6 rigore fuori, noi uno solo a favore, quanto ora un rigorino ci può stare, che per noi, ecco, quello vuol dire. A Lecce su Vucci c'era, ecco. Ci può stare per chiudere la partita, sai, uno fa il 2-0, poi sì, quello... il Milan per adesso è questo qui, poi più avanti sarà anche qualcosa, io questo pensavo questo anche. Sì, beh, buonasera. Guardi, lasciamo Francesco, buonasera, buon viaggio, lasciamo stare i rigori, i rigorini e i rigorucci, perché oggi c'era qualcosa per il Cagliari, lei dice di Matri che ha dato un bel tuffetto su un contattino che poteva anche stare, che poteva anche esserci in area di rigore, però diciamo che dei tre episodi di questa partita, quello su Matri mi è sembrato il meno evidente. Quanto al gap con il Milan, credo che ancora esista, credo che proprio da un punto di vista tecnico credo che ancora esista, credo che la Juventus abbia bisogno di almeno 2-3 giocatori di livello internazionale per andarlo a chiudere. Poi, detto questo, sta monetizzando comunque il fatto di aver ritrovato compattezza, il fatto dello stadio, il fatto che comunque non ha le coppe, il fatto che comunque adesso è una squadra che ci crede, è un gruppo che ci crede. Dunque ci sono molte ragioni per cui questo gap con il Milan al momento non è così evidente, ma da un punto di vista tecnico mi sembra che esista ancora. Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid, dalla Spagna, per la Gazzetta dello Sport, mio amico. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Oggi sei andato a ripescare il precedente dell'agosto 2010. Sì, col Mallorca. Col Mallorca, partita di esordio di Mourinho nella Liga. Fu una partita grigia, quella di ieri invece è stata una partita che forse può scrivere la storia del campionato spagnolo. Sì. Cosa dici? Sì, sono quelle partite che si ricordano poi. Insomma, io mi ricorda molto l'epica capelliana, con Capello di partite così ce ne furono 5-6 in una stagione. Qua siamo alla prima, se vogliamo seconda, se mettiamo anche la partita di Coppa del Re col Malaga, no? L'andata, quando Madrid perdeva 2-0, poi ha vinto 3-2, tre cambi di Mourinho nell'intervallo. Quello che resta, due cose, ovviamente, il risultato e l'operatività di Mourinho, perché ha fatto i cambi, poi ha cambiato modulo due o tre volte, e ha provato con tutto il potenziale offensivo che aveva e mi è piaciuto. Insomma, probabilmente a vederlo così e guardando ai classicos che arrivano, probabilmente il tifoso si chiederà perché non ci deve essere la stessa, come si può dire, creatività anche contro il Barça, che è un'altra squadra, però che non è mai stata affrontata in maniera, come si può dire, brillante. Sì, sì. Questo è, questa è una, cosa, è una cosa che scopriremo. Rimane quel complesso di inferiorità che esiste e che è ancora ben presente. No, riflettevo ieri su una cosa, ma sai che Allegri ha firmato contratto con il Milan, no, diventa allenatore più pagato della nostra Serie A, 2,5 milioni di euro, lui e Mazzarri. Certo, sono lontani per noi i tempi degli 8, 9, 10, ricordo la famosa conferenza stampa con gli sponsor, 14, sto buttando lì cifre a caso, ma erano mostruose, no? Quelle dell'ingaggio di Mourinho. È così, siamo sopra i 10, guadagna più di tutti i suoi giocatori, sì, guadagna almeno, diciamo, no, 4 volte Allegri, sì, più o meno. Sì, guadagna 4 volte Allegri, e mi domando anche come possa sbarcare nel nostro campionato uno come Guardiola, che non penso guadagni tanto di meno. No, un pochino di meno, ma non molto. E poi ovviamente poi ci sono le pretese poi sul mercato, perché voglio dire, non è solo l'ingaggio, che un allenatore così poi pretende e ottiene di poter pagare 30 milioni per Coentrao. Sicuro. Come sta vivendo invece il Barcellona la settimana dei palloni d'oro? Stasera gioca col Betis, però è una partita scivolosa. Aspetta, io e te dobbiamo delle scuse. Cioè? Ai nostri ascoltatori, l'altro giorno, presentando la partita, ha detto, ha vinto il derby, no? Vince la 5-1. Sì, è vero, vero. Secondo me è giusto riconoscere il merito. Facciamo ammenda. Sì. No, partita tra l'altro divertentissima, così, e che il Barcellona pensava con grande presunzione di vincere 1-0, sarebbe stato il terzo in trasferta quest'anno, erano tranquilli e poi sono stati sorpresi, meritavano di vincere, no? Vabbè, stasera giocare in casa mi sembra un parziale, non so, di 100-0, vabbè, insomma, non lo diciamo più, però dovrebbe essere una vittoria facile. Si sta preparando, secondo me, con grande voglia a questi classicos, perché il campionato sta provando a cercare motivazioni, dai. Esatto, sì, il campionato io la vedo così, lo perderanno vincendo anche il prossimo classico, però la Liga difficilmente scapperà al Madrid, che avrà la sua consolazione. In Coppa del Re dipende, perché questa è l'andata, è al Bernabeu. Se il Barcellona fa risultato, poi il ritorno può diventare un calvario per il Madrid. E quindi i giocatori del Barcellona, che sono adesso un po' ridotti all'osso tra infortuni e mi sembra che abbiano una gran voglia di sfidare il Madrid, e molta più voglia di quanti ne abbiano i loro colleghi. Sì, questo lo posso, lo posso capire alla luce dei precedenti. Filippo, ti ringrazio. Un abbraccio. Ciao. Grazie Filippo Maria Ricci. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo insieme a chiudere con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, traffico. Strade in diretta. Sono code per lavori sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Salbertrana e Susa Ovest in direzione di Torino. Traffico intenso e rallentato sulla 5 Torino-Osta tra Verre e Ivrea verso Torino. C'è traffico anche lungo il tratto milanese della 4 con code a tratti verso Torino tra Monza e Viale Certosa, sempre sulla 4, ma in Piemonte si rallenta in direzione di Milano tra Balocco e Greggio. Sulla 10 Genova 20 miglia sono 2 km di coda per il traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Rallentamente code poi per traffico intenso anche verso Roma sul tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare via Togliatti e sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova. Prudenza per la nebbia in banchi che riduce la visibilità in queste ore tra Piemonte, Lombardia Lombardia e Veneto, viste le temperature al di sotto dello zero anche in pianura al nord, sono inoltre possibili tratti ghiacciati, quindi molta attenzione. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento con Strade in diretta tra mezz'ora. Tempo di sport. Prima di Mario da Bologna, altro ascoltatore all'800 24 00 24, vorrei fare una digressione dai temi calcistici per insomma, per celebrare come si deve una grande notizia di giornata e Alessandro Pittin che concede il tris, terza vittoria in tre giorni in combinata nordica a Chenevre in Francia. Mai uno sciatore italiano è riuscito a vincere prima di venerdì in questa specialità e adesso Pittin ha messo in fila tre vittorie una sull'altra. Se lo ha sentito poco fa Dario Ricci, sentiamolo anche noi. Sicuramente fare tre gare così qua in Francia, in casa dei francesi, in casa degli amici, conta quasi il doppio, no? Quindi va benissimo, ho recuperato posizioni, ho preso molti punti, quindi per me va bene, ho fatto tre vittorie, non ci avrei mai pensato, insomma. Questa tripletta quanto vale in prospettiva Coppa del Mondo? Sei lì vicinissimo alla vetta, ci si può credere, ci si può sperare, ci credi? Oh, non so, io non ci ho mai pensato da inizio stagione, non ci penso neanche adesso, sicuramente darà fastidio ai francesi questo weekend, però spero di mettergli un po' pressione, ma so che comunque la mia è più forte, quindi vediamo, adesso ci prepareremo per la Val di Fiemme, speriamo di far bene anche in casa. Invece per il tuo sport, questo filotto di vittorie, unito poi a quella che era stata la medaglia olimpica di Vancouver, quanto può contare? Perché in fondo sei un po' l'apostolo della combinata nordica, uno sport veramente poco noto alle nostre latitudini. Spero tanto, perché ci servono anche questi risultati, ci serve anche il supporto della gente, e adesso il prossimo weekend appunto sarà Federazione Italia, io mi aspetto insomma che ci sia tanta gente, qua in Francia ce ne erano tantissime, speriamo insomma di farci vedere per questo anche in Italia, di avere tanto pubblico, perché sicuramente ci dà una mano. Beh, intanto un grande personaggio sta nascendo da Alessandro Pittin, terza vittoria in tre giorni in combinata nordica. Noi torniamo a parlare di calcio con Mario e con Gianluca. Mario da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Secondo me lei gente ha messo un po' le mani avanti quando pochi minuti fa ha detto che anche in caso di vittoria dell'Inter non vede la scudetto. Io nonostante segua l'Inter sono d'accordo con lei, però... Però l'occasione è grande. Ma io ripeto... L'obiettivo, fossi l'Inter, fossi Ranieri, fossi Moratti, fossi lei Mario che è interista, direi il mio obiettivo in questo momento è quella quota 35 dove sta l'Udinese, perché quello è realisticamente l'obiettivo minimo da centrare per un club come l'Inter. Poi sono al resto... Con lei. No? Sono d'accordo con lei, perché io punto al terzo posto in un campionato di transizione come questo, semplicemente dico questo, che anche in queste vittorie consecutive ho notato una pochezza nel campionato abbastanza così imbarazzante, soprattutto le squadre che sono presentate a San Siro, ma anche le stesse vittorie che l'Inter ha fatto in trasferta, e ho una sensazione che Inter e Milan si siano scambiati i ruoli, cioè in passato l'Inter era più un carro armato da maratona, da campionato e in Champions un po' fragile, il Milan invece aveva la squadra con le stelle da partita singola, sì. E potrebbe darsi che si siano invertiti i ruoli. Quindi il lei Milan crede più da maratona, lei crede, potrebbe... è fiducioso per i cammini europei? Assolutamente sì, perché è un anno anche un po' straordinario, perché il calcio inglese è un po' in involuzione e con dei sorteggi non malissimo Inter e Milan possono andare molto avanti, soprattutto l'Inter che farà due grandi acquisti che sono Forlan e Sneijder, per cui almeno in Champions sono molto ottimista. E Tevez dove lo mettiamo? Tevez lo lasciamo dov'è, perché Moratti non se lo può permettere, ormai l'ho capito. E ma da poi cosa l'ha l'Inter... capito? Se... Insomma, mi sembra che l'interesse dell'Inter sia reale. Non credo che l'Inter sia entrato in questa trattativa soltanto per far dispetto ai cugini, non ma posso pensarlo. Ma io invece pensarlo. Credo di sì, all'Inter servirebbe un grande centrocampista stile Marchisio De Rossi, non capisco perché non vadano a prendere uno di questi due, ma all'attacco mi sembra che se si fa anche l'altro grande acquisto che è Milito, poi credo veramente ci saranno delle soddisfazioni. Non lo so, sono d'accordo sul fatto che l'Inter comunque ha bisogno di grandi centrocampisti, perché vale per l'Inter lo stesso discorso che abbiamo fatto molte volte anche oggi per il Milan, e cioè c'è fame di stelle, c'è fame di giocatori di talento, ma i problemi veri sono da altre parti. Vale questo discorso per il Milan, ma vale anche per l'Inter, perché non c'è molta differenza anagrafica neanche di chilometraggio tra i due reparti di centrocampo, quindi... Però se l'Inter va su un giocatore come Tevez con i soldi in mano, cosa che a quanto pare è stata fatta, vuol dire che l'interesse è concreto. Non, mi rifiuto di pensare che sia soltanto un dispetto ai cugini. Gianluca da Firenze. Salve, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Ahimè, quest'anno anch'io sono, cioè come gli ultimi anni, sempre sono stato interista, devo considerare l'idea che il Milan e la Juventus quest'anno sono decisamente più forti. Avrei impostato il mercato, fossi stati Moratti, completamente in maniera diversa, perché credo nei cicli, soprattutto in Italia, magari non in altri paesi, però soprattutto in Italia, e credo, visto anche le ultime partite, che l'Inter può fare ora, forse, anzi sicuramente meglio di come ha iniziato, però le altre due squadre hanno più che altro una convinzione diversa, che è fondamentalmente la base di una squadra che vuol vincere e ambisce a essere tra le prime tre in Italia. Tuttavia ho visto la Juventus la scorsa settimana e sono rimasto basito da tutta questa sopravvalutazione che c'è nei confronti di Conte, perché è una squadra che si basa su episodi singoli, a parte forse oggi, perché oggi ha giocato una partita diversa, però la scorsa settimana è stata una cosa incredibilmente scandalosa, secondo me. Gianluca, però la sopravvalutazione di Conte, io leggo la classifica e vedo che la Juventus dopo 18 partite è prima, quindi non è una sopravvalutazione in termini estetici, è una sopravvalutazione in termini numerici, cioè sopravvalutazione è un discorso in termini numerici. La Juventus, al di là delle difficoltà che ha incontrato a Lecce, e sono concrete, reali, ed è stata una vittoria brutta, tra virgolette, come bisogna metterne in banca un po' per poter vincere uno scudetto, perché servono vittorie di questo tipo. È comunque una squadra convinta, è una squadra che ha una sua logica, che ha dei difetti evidenti, soprattutto nel pacchetto dietro, però è una squadra che può, cioè non è una bestemmia dire che questa Juventus vale lo scudetto. No, rispetto alle altre, secondo me la Juventus vale lo scudetto molto più di quanto lo valga il Milan, che si basa solo su giocate. Personalmente la penso così, cioè se il giorno in cui dovesse succedere tanto che Ibrahimovic si infortuna, Allegri Gianluca, che Ibrahimovic sia condizionante per qualunque squadra in cui abbia giocato, questo è un dato evidente. Sì, ma non lo è stato, per dire, in passato, negli scudetti passati. Beh, insomma, in quelli dell'Inter, beh, lo è stato e come. No, in quelli dell'Inter, infatti, in quelli dell'Inter sì, negli scudetti. Nello scudetto vinto e diciamo la triplete non lo sarebbe stato, non lo è stato perché non c'era, però non lo è stato. Allora tagliamo la testa al toro, non lo è stato per il Barcellona, dove ha vissuto, dove è passato, ha ballato per una stagione soltanto, forse lì non lo è stato determinante per un titolo. In tutte le altre occasioni, e sono moltissime, lei le sa meglio di me, Ibrahimovic è un giocatore determinante, condizionante, che ha bisogno del centro del palcoscenico, perché è fatto così, anche per caratteristiche tecniche. Che poi il Milan si basi sulla singola giocata vale per il Milan come vale per l'Inter, forse a maggior ragione per l'Inter in questa prima parte di stagione. Gabriele da Udine, poi aggiorniamo la seduta. Buonasera. Gabriele? Sì, eccomi. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Dica. Volevo fare due piccole domande. Prego. Una, se secondo lei, dopo, se il Milan dovesse vincere la partita di stasera, sarebbe una specie di fuga, diciamo, se potrebbe essere una vittoria decisiva per lo scudetto. E un'altra considerazione sull'affare Tevez, che a detta di tutti è saltato il primo Berlusconi, però secondo me ci potrebbe essere ancora una riapertura, conoscendo magari Galliani e il proprio mercato, insomma. Ma su Tevez anch'io sono convinto del fatto che qualcosa riusciremo ancora a vedere, non c'è dubbio che l'Inter sia davanti a tutte per l'acquisto di questo giocatore, però sono discorsi che torneremo ad affrontare da domani. Quanto alla vittoria, alla fuga del Milan, però credo sia una partita determinante per gli equilibri di testa del campionato, perché il Milan stasera vincendo può trovarsi in testa da solo per la prima volta, ma soprattutto può eliminare definitivamente, cancellare definitivamente ogni ambizione, ogni velità dell'Inter. Parliamoci chiaro, se l'Inter perde la partita di questa sera, non solo è fuori dal giro di scudetto, cosa che a mio parere sarà anche in caso di vittoria nerazzurra, ma anche tutti i discorsi relativi al terzo posto attualmente in mano all'Udinese, tutti i discorsi relativi al rilancio verrebbero, dopo 5 vittorie consecutive, verrebbero di fatto, secondo me, azzerati. Non resta che aspettare e capire come finirà la partitissima di San Siro. Noi ci risentiamo alle 8:30 per parlarvi di ciò che invece sta succedendo sui campi di basket. Al momento grazie a Giorgio Lucchi in redazione, a Filippo Oreggi in regia, più tardi. A tempo di sport.